Carissimi amici di Archeologia Videoludica, bentornati a questo 12° episodio di questa nostra quarta fantastica stagione che sta avvolgendo ovviamente al termine. Fate attenzione in questa fase in cui vi sto per dare ovviamente riferimenti dal nostro podcast, perché ci sono stati dei cambiamenti, sono stati dei problemi, poi dopo magari ve li spiego un po' meglio. Prima però ovviamente entriamo nel clima della trasmissione, quindi Archeologia Videoludica lo trovate a www.archeologiavideoludica.it o .com. Se avete problemi scrivete archeologiavideoludica.blogspot.com e ovviamente lo trovate di sicuro. Ci trovate chiaramente anche su Facebook e su G+, Archeologia Videoludo, anzi no, scusate perché mi sono confuso con dietrologia, ma è Videoludica è il nostro Twitter. A questo punto entriamo immediatamente nel clima della trasmissione e poi faremo alcune precisazioni. ZX80, ZX81, ZX Spectrum. Lo spettro ZX, inquietante macchina nera vivente dentro un inquietante processore chiamato Zilog. I tasti gommosi in lattice, Spectrum come lo spettro di colori strisciati sullo chassis nero in basso a destra, rosso, giallo, verde, azzurro, un retro arcobaleno per sogni a 8 bit, sogni basici, basic, il linguaggio nei 16 kilobytes nella memoria ROM, l'audio, segnali ad onda quadra sparati da un buzzer, la mappa dello schermo fatta di pura grafica, 256x192 pixel, colori che pian piano entrano nell'anima dell'Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, America, nero, verde, blu, rosso, magenta, ciano, giallo, bianco, Clive Sinclair, un uomo, un rosso inglese che porta l'inquietudine del linguaggio macchina dentro le case. 1982, con lo Spectrum è possibile ascoltare la sua voce durante il caricamento, una voce disumana, spettrale, agghiacciante, delineata su di uno sfondo di frequenze elettromagnetiche impazzite, modulata da corde vocali fatte di lame seghettate, stridenti, raschianti. Con lo Spectrum, la prima volta che un essere umano vedeva e sentiva lo Spectrum, i flash di lampeggiamenti fluorescenti a video, lo scirupparsi una sferzata rorida dell'inquietudine data dalla macchina, fuggire, adesso, oppure qualcosa, ora lo sapevi, che avrebbe potuto agganciarti per sempre. Lo ZX Spectrum era il sogno homebrew per eccellenza, la piccola potente macchina economica per tutti. Rilasciata il 23 aprile 1982, 32 anni fa, o il giorno in cui viene registrato questo, oggi. E dopo questa fantastica intro di Luigi Marrone, 4X12, la nobile inglese, si parla finalmente dello ZX Spectrum. Ci siamo finalmente arrivati dopo tanto tempo che abbiamo girato intorno, insomma, a questa mitica macchina, e questa sarà una delle prime e delle tante puntate ad essa dedicate. Ovviamente probabilmente nel prossimo futuro, soprattutto nella prossima stagione, appunto come abbiamo già annunciato in precedenza, saranno delle trasformazioni indicazioni dal punto di vista editoriale di questo podcast, e non è detto che seguiremo sempre un filo dal punto di vista cronologico, però cominceremo a parlare anche di alcune macchine. Poi se alcuni pensano che alcune cose sono rimaste indietro, andate tranquilli, veramente di argomenti ce ne sono tanti. Dicevo, .it.com è il nostro sito di archeologia videoludica, perché ci sono stati dei disguidi che è inutile insomma stare poi a spiegare più di tanto. Insomma, ci sono delle responsabilità congiunte tra magari anche noi, sicuramente Google, e sicuramente poi quel fenomeno di grande sciacallaggio che fa parte insomma del mondo dei domini che vanno a scadenza, soprattutto quando sono dei domini che hanno una certa rilevanza dal punto di vista del traffico. Infatti quello che è successo insomma ci suona un po' bislacco, un po' strano, e quasi insomma, se non fosse il fatto che comunque c'è stato veramente un problema tecnico, sembra quasi premeditato. Quindi abbiamo perso il nostro punto net, abbiamo provato a fare la nostra offerta, ovviamente un'offerta assolutamente inferiore a quelle che sono le richieste dello sciacallo di turno, che al quale ovviamente faremo insomma una nostra guerra. Per quanto riguarda invece l'episodio in questione, ci sono stati dei problemi tecnici, ecco, vi faccio sentire alcune cose che sono inerenti ai problemi tecnici. Simone? Ciao Simone. Ce lo siamo giocati? Penso di sì, guarda. Non è possibile. Sarà bestemmiando su Windows. In questo momento sta dicendo delle cose che, guarda. No, è incredibile. C'è Papa Francesco che si è affacciato al... Oggi ha chiesto perdono per i pedofili e aggiungerà e Simone Pizzi. E Simone Pizzi, sì, sì. Perché fratelli, il podcast è una cosa buona, però... E il Pizzi e bestemmia un po' troppo. Signore, perdonalo perché sta facendo un podcast, ma sono bestemmia un po' tanto. È bravo, però bestemmia. Minchia, ragazzi, delle volte veramente. Ma l'hai visto il suo quel corto che ha fatto con il distruggitore, quello del il priore. Del priore, sì. E esatto. Io ho partecipato al priore 2, lascia perdere, va. Ah, sì? Sì. Ma non è online? No, grazie a Dio. No, non so, poi è arrivata quella disgraziata che in questo momento sta dormendo di là e che, sì, che mi ha vestito da suora, per cui vabbè, lasciamo perdere. No, fantastico. Mi ha messo un lenzuolo in testa. Ma occhio, perché potrebbe spuntare fuori un priore 2. Aspetta che è caduto. Poi. No. Vabbè. Allora, io qui lo vedo perso. Speriamo se c'è su Facebook. Simo. Pronto? La vedo malissimo, Simone. La vedo molto male, no, sì. Simone veramente si incazza adesso. Aggiungi persone. Dietrologia. Ci conviene stoppare la registrazione, forse? No, perché dopo un casino. Ah, sì, ok, rimontarlo, ok. Mi dice che Simone non è neanche in linea. Ha risposto delle cose incomprensibili. Perfetto, questi problemi tecnici hanno costretto insomma una rielaborazione dell'episodio molto lunga, molto impegnativa, e quindi ovviamente anche il relativo ritardo. Ok, dei problemi dell'episodio e dei problemi relativi al dominio ve li abbiamo spiegati, ricordate .it.com o altrimenti .blogspot.com, e poi insomma seguiteci, che faremo chiaramente la guerra tramite Google a questo simpatico americano che con un sito tipo dietrologia videoludica, archeologia videoludica .net insomma, beh, penso insomma che se ne faccia veramente poco, anche se lui dice che c'è un progetto al quale lui è stato commissionato, sa, le solite minchiate per non giustificare il fatto che in realtà insomma è l'ennesima sciacallata. Ringraziamo Luigi Marrone per l'introduzione, che potrebbe diventare uno standard e anche una tradizione, e soprattutto ringraziamo adesso Roberto Bertoni perché ci introduce, finalmente entriamo nel vivo dell'episodio, quindi bando alle ciance, ci introduce la macchina della quale stiamo parlando, ossia lo ZX Spectrum, con questa scheda tecnica. Amici di archeologia videoludica, buongiorno. Tocca a me presentarvi con la meraviglia tecnica del Sinclair ZX Spectrum, microcomputer prodotto a partire dal 1982 dall'omonima azienda. Il mio compito sarà quello di introdurvi un po' a quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa macchina. Macchina che fu la principale antagonista del Commodore 64 e che, nonostante possiamo dire per alcuni versi perse un po' la battaglia fra queste due mitiche macchine, riuscì comunque a ritagliarsi una discreta fetta di mercato. grazie a un listino prezzi più abbordabile rispetto al concorrente e comunque grazie a delle caratteristiche che fece innamorare numerosi appassionati. Giusto per dare qualche idea, andiamo innanzitutto proprio le specifiche base, ovvero il processore che è uno Zilog Z80A a 3,5 MHz. Potete immaginare la potenza all'interno di questo microprocessore. 16 KB ROM, dove era contenuto anche il sistema operativo e l'interpreter BASIC, il famoso Sinclair BASIC. 16 KB di RAM, dove è espandibile fino a 48 KB per la versione Spectrum 16 o 48 KB. E dimensioni, parliamo di una piccola macchina, piccola ovviamente relativamente, di 233 mm x 144 mm x 30 mm. Ovviamente le dimensioni sono larghezza, profondità e altezza. Dal punto di vista grafico, lo ZX poteva prevedere uno schermo di 256x192 pixel, mentre il fonte di caratteri, quindi la grandezza di ciascuno carattere, poteva essere di 8x8 pixel, quindi sostanzialmente si avevano 24 righe a 32 caratteri che erano visualizzabili sullo schermo. A differenza di alcune console dell'epoca di cui abbiamo già parlato in diverse puntate, lo ZX non implementava un chip grafico che poteva gestire i cosiddetti sprite, né erano neanche dei joystick, le porte joystick di serie. Questo chiaramente poteva essere una limitazione, però ha permesso comunque agli sviluppatori di poter sbizzarrirsi e di creare numerosi titoli che verranno ricordati nei secoli a venire. Questo perché il processore era comunque un ottimo processore e quindi aveva un accesso veloce alla pagina video che permetteva di creare comunque una vasta libreria di giochi che misero a dura prova quelle che erano capacità ingegneristiche dei programmatori dell'epoca. Ovviamente, questo è un elemento importante, non era venduto con un monitor integrato, quindi comunque era possibile collegare un normale televisore PAL a colore bianco e nero e solitamente, se vi ricordate, si utilizzava il mitico canale 36. Per quanto riguarda l'audio, diciamo che siamo un po' carenti, nel senso che la ZX era dotato solamente di un buzzer, che era teoricamente in grado di generare solamente suoni poco profondi e poco performanti. Col passare degli anni, comunque a partire dalla sua uscita, questi limiti hardware vennero superati con accorgimenti software, quindi grazie ad alcune temporizzazioni si potevano generare svariati effetti sonori e addirittura si arrivò anche a un minimo di sintesi vocale. Per quanto riguarda la tastiera, vi ricordate la mitica tastiera della ZX? Questa era composta da 40 tasti ed era interessante che oltre ai normali caratteri ASCII c'erano anche 16 caratteri grafici, 22 codici colore e 21 caratteri grafici che erano gestibili direttamente dall'utente. Per le periferiche invece avevamo una memoria di massa rappresentata ovviamente dal registratore a cassette, quindi tutto il software era prodotto appunto su nastro, tranne che lo ZX Spectrum più 3, una macchina di cui non so se parleremo specificatamente, ma comunque vale la pena accennare, che utilizzava un floppy disk drive da 3 pollici. Per chiudere vale la pena citare la ZX Interface 1, ovvero una periferica utilizzata per connettere fino a 8 ZX microdrive, e la ZX Interface 2, prodotta sempre da Spectrum, che permette di inserire due joystick digitali. Questa era una piccola innovazione permise di ampliare ancora di più quello che era il parco titoli pubblicato dalla Sinclair, anche se probabilmente non è stato quel balzo evolutivo che molti si aspettavano. Numerose altre aziende poi produssero diverse periferiche, visto anche il successo di questa macchina sul mercato. Abbiamo appunto alcuni joystick digitali, una mini stampante a carta termica, la famosa ZX Printer, però in generale diciamo che il grosso della potenza e dell'amore degli appassionati risiede nella macchina originale. Con questo è tutto, vi lascio quindi a una bellissima puntata che vi aspetta, ricca di contenuti, ricca di aneddoti, ricca di storia, che in qualche modo è stata tracciata e indicata proprio dall'azienda di Clive Sinclair. Buona avventura, amici! una macchina peculiare, particolare, probabilmente una macchina, insomma, poi dopo lo sentirete magari durante le dissertazioni, durante l'episodio, forse è più attenta a determinate cose piuttosto che altre, ma sicuramente un prodotto che ha fatto la storia dell'home computing, del personal computing, ma soprattutto del videogioco, anche se poi alla fine, come il stesso Sir Sinclair, insomma, disse a suo tempo, certo il videogioco non era tra le sue mire e probabilmente neanche si sarebbero potuti aspettare questo sviluppo particolare di questa macchina. Ma per parlare di come lo ZX Spectrum è stato accolto in Inghilterra, chiaramente, ma anche nel resto del mondo, e soprattutto ascoltare di come la stampa ne parlava della macchina o parlava magari dei videogiochi, ringraziamo ancora una volta Morgan per questa rubrica che speriamo anch'essa diventerà una tradizione, con la retro rassegna stampa. Cari amici, un saluto da Morgan e bentornati all'appuntamento con la retro rassegna stampa. In questa puntata, tutta all'insegna di riviste internazionali, sfoglieremo gli articoli dedicati alla carta stampata all'epoca dell'uscita dello ZX Spectrum. Iniziamo con un articolo firmato da Tim Hartnell su Your Computer di giugno 1982. Il nuovo Sinclair è arrivato finalmente, un microcomputer grande come un libro, con colore, suono ed una versione estesa del BASIC dello ZX81. Lo Spectrum ha 8 colori, un generatore di suono, un altoparlante integrato e una tastiera reale. Le sue caratteristiche sono molto superiori a quella della BBC modello A e viene venduto allo stesso prezzo di uno ZX81 con 16K, ovvero 175 sterline. Lo Spectrum utilizza un set gonfiato del BASIC dello ZX81. E qualunque programma scritto per ZX81 può essere digitato all'interno dello Spectrum con piccoli cambiamenti. Il caricamento e il salvataggio sono molto più rapidi di quando non faccia lo ZX81. Infatti la velocità è non più di 250 baud, ma 1500. Lo Spectrum lavora sia con lettere maiuscole che con lettere minuscole e ignora gli spazi tra i nomi delle variabili. I codici d'errore sono ben realizzati, sono in inglese e non sono più numeri o lettere come nello ZX80 e 81. I tasti, anche se sono gommosi, e c'è bisogno di premerli con molta decisione, ma senza avere il bisogno di dover continuare a mantenere lo sguardo sullo schermo, cosa che accadeva con lo ZX81. Infatti la tastiera produce un ticchettio ogni volta che viene schiacciato un tasto. La Sinclair ha inventato il sistema un tasto un comando. In questo modo la programmazione diventa rapida e piacevole. Il comando beep è semplice da usare e il volume dell'altoparlante interno è adeguato. L'uscita audio può essere sfruttata sia dal microfono e sia dalle prese auricolari, eventualmente per alimentare un amplificatore. La grafica è molto migliore rispetto a quella dello ZX81 e il comando draw può essere utilizzato anche per disegnare le parti di cerchi. È possibile anche ridefinire fino a 21 caratteri utilizzando una funzione chiamata bin per binario. I nuovi caratteri possono essere assegnati ognuno ad un tasto. A parte ciò, è un bene che la Sinclair non abbia deciso di uccidere, di togliere dal mercato lo ZX81, in quanto è ancora il computer ideale per coloro che vogliono programmare senza un'eccessiva spesa. Inoltre, chi sa già programmare lo ZX81 imparerà ad usare lo Spectrum in meno di 2 ore. Dopo aver passato giorni a fissare i neri, i grigi e i bianchi del muto ZX81, i colori brillanti e i beep dello Spectrum faranno in modo che anche i vostri programmi più noiosi appariranno interessanti. Quindi, con un colore potente e con i comandi audio, lo ZX Spectrum è un computer straordinario, superiore al BBC modello A. E nonostante difetti minori, lo Spectrum è molto più avanti dei suoi concorrenti. È certo che ci farà fare la fila per ordinarlo. Passiamo ora a Sinclair User di giugno 82, in cui in un articolo di Robin Braber, intitolato La promessa iniziale viene realizzata, lo Spectrum viene addirittura chiamato con il suo nome in codice, ovvero ZX82. Il sottotitolo del pezzo è Scopriamo lo ZX Spectrum della Sinclair e troviamo incredibile che costi solo 125 sterline. Lo ZX82 ha un modello con 48K di RAM, quindi è paragonabile come potenza a un computer molto comune come l'Apple II, il quale costa circa 3 volte questo prezzo. La differenza principale tra lo ZX82 e ZX81 è immediatamente evidente. Lo ZX82, ovvero lo Spectrum, dispone di una tastiera e tasti che si muovono verso il basso con la fermezza e la percezione di una calcolatrice da tavolo. L'altra caratteristica evidente è il numero di funzioni sulla tastiera. La codifica a colori è molto efficace. Il formato dello schermo è molto simile al VIC-20, con una zona di bordo e lo schermo attivo all'interno. 8 colori sono disponibili. È anche possibile avere 21 caratteri grafici definiti dall'utente, che permetteranno alfabeti come il greco o altri. I comandi del controllo colore sono molto semplici da utilizzare. La luminosità può essere su 2 livelli e gli attributi del carattere vengono memorizzati solo in 1 byte. Tutti gli 8 colori possono essere sullo schermo allo stesso tempo, con alcune aree lampeggianti, alcune costanti, alcune luminosità normale e alcune luminosità bright. A differenza dello ZX81, lo Spectrum utilizza i codici ASCII standard. Lo ZX82 ha una porta di espansione simile allo ZX81, con l'aggiunta delle informazioni video a colori. In questo modo, un monitor a colori potrebbe essere collegato per ottenere immagini di alta qualità. In sintesi, lo ZX Spectrum è un eccellente computer al suo prezzo e darà a Commodore, Acorn, BBC e Atari un taglio ai loro guadagni. Passiamo ora a Personal Computer World, il numero del giugno 82, in cui David Tebba titola l'articolo «Sinclair depone un uovo d'oro», con sottotitolo «Ancora una volta Sinclair offre un rapporto qualità-prezzo eccellente». Zio Clive è l'unico che poteva concepire questo computer. Lo Spectrum, al momento, è disponibile solo per corrispondenza e, come la maggior parte dei computer di questo livello, lo si può collegare al televisore e usare un normale registratore a cassette. A differenza dei suoi predecessori, sembra estremamente elegante. Ci sono pochissime componenti all'interno dello Spectrum. 14 chip, un modulatore UHF, uno speaker, resistenze, diodi, cristalli ed una bobina. Il tutto è montato su di una singola scheda. Un connettore nella parte posteriore può essere utilizzato per stampanti, per comunicazioni e per eventuali unità a disco. Non ci si abitua subito al suo uso. Nel mio caso ci sono voluti un paio di giorni e ho scoperto che i simboli in rosso sui tasti, che hanno colore grigio, sono abbastanza difficili da leggere. Nel prezzo è incluso anche l'alimentatore elettrico e il layout della tastiera è un lavoro molto professionale, funzionale e intelligente e riesce a comprimere ben 191 comandi in solo 40 tasti. All'interno del firmware vi è la gestione di 2 tabelle dello schermo che vengono mantenute contemporaneamente in memoria. Una ai caratteri e l'altra agli attributi colori che servono a descrivere come sono visualizzati i caratteri stessi. La precisione matematica è di 9,5 decimali ed ha una gamma piuttosto completa di funzioni matematiche già utilizzabili all'accensione. Lo Spectrum viene fornito con una versione molto utile di Basic, che sarà abbastanza familiare a chiunque ha già utilizzato il Basic Microsoft. È possibile salvare i programmi in modo che l'esecuzione si avvia automaticamente quando viene ricaricato. È possibile inoltre salvare le matrici, salvare determinati blocchi di memoria e lo schermo stesso. La struttura della grafica è molto piacevole ed è possibile disegnare linee rette, curve e cerchi su di una matrice di 176x256 pixel. Parlando della documentazione, vengono forniti 2 manuali con lo Spectrum, una introduzione di poche pagine e una più spessa che spiega le cose più in profondità. Egli è presentato molto professionalmente, anche se un po' prolisso. Il manuale sembra coprire tutti gli aspetti dello Spectrum ed è certamente migliore rispetto a molti manuali di altri computer presenti sul mercato. L'idea di poter sfruttare le reti potrebbe essere utile sia negli uffici che per fare cose come elenchi telefonici, bacheche o memo. Piano piano anche programmi di giochi inizieranno ad apparire e quindi parecchia gente lo userà solamente per questo scopo, anche se questo sembra un po' uno spreco. Al momento lo Spectrum è disponibile solo per corrispondenza ed è solo in vendita nel Regno Unito. Le versioni per l'esportazione non sono previste che per la fine del presente anno. Passiamo ora a Sinclair Users, di luglio 1982, con un articolo intitolato «Sotto il cofano dello Spectrum», in cui Stephen Adam guarda dentro la macchina di Sinclair e trova che ha molto in comune con lo ZX81. Lo Spectrum è molto simile per forma e stile con lo ZX81. Ci sono infatti parecchie somiglianze. Sinclair ha mantenuto la tastiera originale per risparmiare spazio, ma in questo caso i tasti hanno l'autoripetizione. L'unica pecca sono i movimenti del cursore. Infatti sarebbe stato meglio mettere i tasti cursore sul lato sinistro, in modo da poterli usare con una singola mano. Lo Z80A è stato liberato del lavoro di tracciamento dello schermo, cosa che viene effettuata ora dalla ULA. Purtroppo ci possono essere solo due colori per ogni carattere, uno per il primo piano e uno per lo sfondo. Lo Spectrum, in definitiva, vale davvero quello che costa ed è molto facile da usare, ma non sembra importante soffermarsi sui suoi difetti quando si guarda ciò che può offrire. Gestione dei dischi, struttura di rete, interfaccia RS232 rappresentano un grande miglioramento rispetto alla ZX81 e il prezzo di 129 sterline non sarà più scoraggiante per coloro che vogliono provare un computer per la prima volta. Su Electronic Computer Monthly del luglio 1982, l'articolo intitolato Lo Spectrum nel suo ambiente si apre con una citazione di Sir Clive Sinclair. Abbiamo pensato seriamente di chiamare questa macchina non è il computer della BBC. Questa è stata la frase con la quale Sir Clive ha presentato lo Spectrum. La prima cosa che un potenziale acquirente del Sinclair Spectrum deve imparare non è tanto il suo linguaggio quanto la sua tastiera. Infatti su questa macchina la lingua è la sua tastiera. In altre parole, invece che digitare print, si preme il tasto P e la macchina lo stampa per voi. 9 volte su 10, se si utilizza un comando in modo non corretto, sarà la macchina a mostrare esattamente dove avete sbagliato. Le caratteristiche del nuovo Spectrum possono essere collocate in 7 categorie. Il primo è un dispositivo di memoria chiamato microdrive. Il secondo è un linguaggio base avanzato. Il terzo aspetto positivo è la grafica programmabile. Il quarto è una tastiera che potremmo definire rispettabile. Non è una buona tastiera, non ottima, ma almeno si può utilizzare senza chiedersi se il tasto è stato effettivamente premuto o no. Il quinto riguarda il suono, che è piacevole e abbastanza morbido. Il sesto è il sistema operativo. Il settimo aspetto positivo è l'autorepeat sui tasti. Ovviamente ci sono un sacco di altre piccole cose che rendono lo Spectrum migliore allo ZX81, come avere i caratteri maiuscoli e minuscoli, un cronometro integrato e non è più necessario obbligatoriamente acquistare un'espansione di memoria. Facciamo un piccolo passo indietro ad agosto 82 e su Sinclair User leggiamo questo trafiletto nei quali si denunciano ritardi nella consegna dello ZX Spectrum. Quasi 2 mesi dopo il lancio, nel corso della fiera dei computer dello scorso aprile, finalmente lo Spectrum ha iniziato a essere consegnato nel mese di giugno. Secondo Sinclair, il ritardo di questi mesi è stato causato dal tempo necessario ad avere una produzione senza intoppi, in quanto il primo lotto di macchine da 16K di RAM, pur essendo pronto per la spedizione, è stato bloccato a causa di un errore di progettazione scoperto a giugno. Una volta risolto, è sopraggiunta una lite riguardo la distribuzione con la Timex. Ora tutto questo è stato risolto e chi lamenta ritardi probabilmente è solo perché non vuole attendere i normali 28 giorni di consegna. Sempre su Sinclair User di agosto 82, un articolo dai toni drammatici denuncia la Sinclair Research in vendita, in cerca di liquidità. Sinclair Research ha superato il primo ostacolo nella vendita delle sue azioni. Ha superato l'audit preliminare e quindi la vendita di parte delle sue azioni è prevista per l'autunno. Si tratterà di vendere il 10% della società e si prevede di raccogliere almeno 10 milioni di sterline. Su Sinclair User di ottobre 83 si annunciano vendite dello Spectrum che hanno superato il 500.000. Le vendite sia per corrispondenza che al dettaglio nel periodo tra aprile 82 e agosto 83 hanno superato il 500.000 di pezzi. A paragone, tra marzo 81 e luglio 82 erano stati venduti solo 400.000 ZX81. Su Sinclair User di agosto 83 vi è l'annuncio della nomina a baronetto di Clive Sinclair. Sir Clive Sinclair ha ricevuto il cavalierato, egli continua ad essere una figura di spicco nel mondo dei computer e la sua società ha venduto oltre 1 milione di pezzi in tutto il mondo. I nomi per la graduatoria sono sottoposti alla regina dal primo ministro Margaret Thatcher e vengono scelte tra figure di spicco nel settore industriale e delle arti. Su On Computer World di novembre 83 viene annunciata la guerra di numeri tra Commodore e ZX e si titola «I due produttori di computer di casa si dicono entrambi i numeri 1 come vendite nel Regno Unito». Il manager di marketing della Commodore, John Baxter, ha dichiarato «Sappiamo che siamo più avanti di Sinclair come avevamo previsto». Infatti nel mese di ottobre Commodore aveva venduto 20.000 Commodore 64 e 60.000 VIC-20 per un totale di 130.000. Tuttavia Bill Nicol della Sinclair Research ha affermato che le sue vendite nel Regno Unito per il mese di settembre, sommando Spectrum ZX81, era di 150.000 unità. Dove sarà la verità? E su questa amletica domanda ci diamo appuntamento al prossimo episodio della nostra retrorassegna stampa, rimandandovi alle note dell'episodio, dove troverete, oltre che il link al testo integrale degli articoli che abbiamo citato, anche una interessantissima intervista a Sir Clive Sinclair con delle insospettabili rivelazioni sullo ZX Spectrum. Quindi tenete d'occhio le note dell'episodio e ciao a tutti! Benissimo, allora avete sentito insomma quei due fuori onda. I fuori onda era che noi abbiamo fatto questa trasmissione insieme a Stefano Paganini, che chiaramente non poteva mancare, grande esperto e amante dello ZX Spectrum e ancora prima dello ZX80 e dello ZX81, e Gianluca Santilio, che chiaramente come membro di archeologia videoludica si è anche ben documentato rispetto a quello che era la macchina, ma soprattutto alla grande biblioteca di videogiochi che questa macchina aveva. Quindi abbiamo dovuto, per mancanza della traccia del sottoscritto, che è andata misteriosamente sparita, nonostante, oltre poi ai problemi di Skype che abbiamo avuto durante la registrazione, abbiamo raggruppato la questione in una discussione a due, una discussione che riteniamo insomma interessante. Probabilmente in alcuni pezzi si capisce un po' che c'è un terzo che avrebbe dovuto parlare, speriamo di aver fatto comunque un editing decente. Detto questo, entriamo veramente nel vivo della discussione e Stefano Paganini e Gianluca Santilio ci inizieranno a parlare della nascita dello Spectrum e soprattutto un ovvio confronto, così come abbiamo fatto nella puntata del ZX81 relativa al VIC-20, un ovvio confronto con il Commodore 64. Che cos'è stato lo Spectrum e soprattutto per quale motivo ne parliamo ancora? Innanzitutto perché era uno dei grandi competitor, nominiamo l'altro che è il Commodore 64. Certo. Allora, prima che cominciasse la trasmissione con Gianluca cominciamo a dire, beh, insomma, è stata un'epopea di grandi partigianismi, cioè, da una parte appunto chi amava lo Spectrum, dall'altra parte i 64esti, e c'era una lotta accesa. Adesso Gianluca ho scoperto essere veramente tanto giovane. Sì, infatti sono stato un po' preso in giro per l'età, anche se sì, ma poi io tieni presente che quando avevo 4-5 anni avevo già un Commodore 64 e mi incazzavo in una maniera incredibile quando arrivava mio padre dall'edicola e portava queste cassette che funzionavano per metà, perché c'era da una parte il Commodore 64 e dall'altra questa cosa strana che nera, pare nera con una striscia colorata. Esatto, e quindi dicevo non lo so, però diciamo, vedevo questi giochi con la grafica strana, non mi sembrava il Commodore 64. Poi qualche anno dopo, quando ho cominciato a comprare la mia prima rivista di videogiochi, che era Computer più Videogiochi, ho capito che esisteva questo Spectrum, che era un simile Commodore 64, senza bestemmiare, un altro home computer, e quindi poi ho cominciato a conoscerlo piano piano. Allora, partiamo da una premessa. Innanzitutto, perché due macchine così diverse? Così facciamo anche due parole su 64. Io dico la mia opinione. Dopo 30 anni, tutte queste diatribe in realtà hanno poco senso. Entrambe le macchine, a mio modesto avviso, hanno portato tantissimo allo sviluppo dell'informatica. Ne abbiamo parlato anche in archeologia informatica. Se pensiamo allo Spectrum, pensiamo a una macchina che è stata prodotta con un criterio fondamentale, che era quello dell'economia. Sir Clive Sinclair non era noto solo per essere un genio, per essere un genio che riusciva a fare con dei componenti disponibili sul mercato delle cose a risparmio totale, per cui la tastiera era una tastiera orrenda, ma era un grandissimo avanzamento già rispetto allo ZX80-81 che io avevo. L'audio era un audio orrendo, ma c'era. I colori, no, sicuramente non era la grafica del Commodore 64, ma c'erano. C'è poi da considerare un altro aspetto. Ripeto, ricordandomi ai tempi, la battaglia, che poi non è stata neanche una battaglia, ma insomma, con i miei genitori per passare dalla ZX80 allo Spectrum, dopo che era uscito, tipo 2 anni dopo, diciamo, dal primo acquisto, nell'83, si trattava di cacciare fuori 396.000 lire. Facciamo 400.000 lire, diciamo circa 200 euro. Il Commodore 64, di primo prezzo, costava 30 anni fa, ovviamente. Ecco, ma non è paragonabile, a parte dare a un ragazzino di 14-15 anni un computer, penso ancora al prezzo che ha pagato mia mamma per lo ZX80 a Natale 81, una cifra, un investimento, ecco. Certo. La stessa cosa con lo Spectrum. Il Commodore 64 costava 900.000 lire, un milione di lire. Quindi era già su un'altra categoria. Quello che ha fatto, ne abbiamo parlato in altri ambiti, provo a sintetizzare, non voglio generalizzare, solo provo a sintetizzare. Da un lato lo Spectrum ha avuto il grandissimo vantaggio di diffondere il computer per le masse, dall'altro lato è di creare tutta una generazione di non solo di programmatori molto svegli, ma anche di sviluppatori di hardware di terze parti che con il bus in uscita dello Z80 hanno costruito un po' di tutto e sempre a bassissimo costo. Dall'altro lato il Commodore 64 aveva già una tastiera, aveva un audio con l'ADSR, con un chip audio molto evoluto, e aveva i floppy, per cui c'era già la possibilità di giocare con un audio di buona qualità, con le porte joystick già integrate, e di utilizzare il floppy con la gestione dei file così come la utilizziamo ancora oggi, più o meno. Comunque diciamo che c'era la possibilità di concepire dei database, di lavorarci anche sostanzialmente. La sorpresa sia per Sinclair che per Commodore è che tutte e due le macchine in realtà erano due console eccezionali per i giochi. La nobile inglese, che è il titolo che ha scelto Simone o Gianluca, adesso non vorrei dare una patata. Simone. Ok. È un titolo particolarmente azzeccato secondo me, perché ripercorrendo la storia, riparlandone anche in archeologia informatica, rileggendo un po' di articoli, ancora oggi lo Spectrum e in parte anche il BBC Micro, che è un altro computer che in Italia non è mai arrivato e che ha avuto una diffusione soprattutto nelle scuole inglesi notevole, rappresentano un grande punto di orgoglio nell'informatica inglese. Non è soltanto il fatto che in quel momento l'informatica inglese fosse un competitor forte sul mondo, perché in realtà lo Spectrum è stato venduto solo in Inghilterra e in Italia e in Francia, ma ha avuto uno sviluppo in Sud America ad esempio, e ha avuto uno sviluppo con dei cloni fantastici anche nell'est europeo, in Romania, in Bulgaria, dove veniva clonato alla grandissima. Tra parentesi, adesso sono i retro computer più desiderati e più costosi, i cloni dello Spectrum. Allora, ciò detto, lo Spectrum, avendo meno risorse, in realtà ha creato una generazione di programmatori che con molto meno risorse hardware rispetto al Commodore 64, la risoluzione grafica inferiore, il color clash di cui tra poco parleremo, la mancanza di gestione degli sprite via hardware, che era una cosa, io mi ricordo quando l'ho letta la prima volta su MC Computer, c'era la spiegazione, c'era un articolo, non mi ricordo di chi, credo il solito Andrea De Prisco, che ha scritto qualsiasi cosa, e mi ricordo una spiegazione dettagliatissima di cosa fossero gli sprite, che fino allora non avevo mai sentito nominare. Soprattutto non immaginavo che ci potesse essere una risorsa hardware dedicata in un chip video alla gestione di oggetti da 8x8, da 16x16 che si muovevano in maniera totalmente indipendente sullo schermo. Cioè, per me era come sentire qualche cosa adesso dell'hardware dedicato dalla PlayStation 4. Come... Sì, era una rivoluzione totale. Anche se non sbaglio l'aveva già forse utilizzata la Atari, li chiamava i... Esatto. I missile objects, esattamente. Sì, sì, sì. Ma la gestione del 64, il problema è che mentre l'Atari era una console per videogiochi per cui la programmazione di quell'affare era comunque limitata, anche se sull'Atari 400-800 era già leggermente più diffusa, l'Atari 400-800 in Italia era di diffusione, sì, non ce l'aveva pressoché nulla, esattamente. Il Commodore 64 a questo punto vista ha sfondato tutti. In realtà lo stesso Sinclair ha mancato il bersaglio, perché lui ha tentato di proporre lo Spectrum quasi come un business computer, o comunque come un computer che potesse fare un po' di più rispetto a quelli precedenti, buttando molti soldi sui micro drive che non hanno mai funzionato. Ma c'era anche un rapporto diverso con l'hardware, cioè nel senso che tu toccavi fisicamente l'hardware, cioè era molto difficile che ci fosse un softwareista e basta. Di solito conoscevi molto bene anche l'hardware e ci mettevi mano, per cui l'idea di dare un computer in kit, in scatola di montaggio, era una specie di erotismo informatico. Ma anche un'iniziazione, una sorta di iniziazione. Anche, esattamente, esattamente. Arrivavi proprio a contatto con la macchina. E poi era la tua, assolutamente. La cosa strana, adesso sempre ritornando al tema della competizione tra Spectrum e 64, è il fatto che ci sia competizione tra un oggetto, il Commodore 64, che ha venduto circa 29-30 milioni di pezzi, e lo Spectrum, che in realtà ne ha venduti circa 3 o 4 di milioni di pezzi. È una sproporzione, però dice che comunque lo Spectrum aveva delle carte da giocare nella semplicità circuitale e nella genialità che comunque Sinclair è riuscito a infondere in questo tipo di macchina, che avevano veramente un valore, cioè non era semplicemente il giocattolo povero, era un giocattolo ben utilizzabile. Tornando a bomba sulla questione dei giochi, Sinclair non aveva previsto ad esempio la porta per il joystick. Io mi ricordo che era un disastro, nel senso che la maggior parte dei giochi uno si giocava assolutamente con la tastiera. Esatto, sì, sì. Dovevi essere una specie di piovra, perché alla fine cominciavano a essere un po' tantini i tasti. Sì, anche se però, guarda, sono d'accordo su questo con Simone, non ho una grandissima esperienza di battitura su Spectrum, però la tastiera del Commodore 64, per dire, era impraticabile per i giochi. I tasti avevano una corsa lunghissima, erano perché erano veri, perché erano veri, perché erano veri. Sì, sì, sì, perché erano veri, però insomma, cioè, magari per contro, non lo dico però, per i giovani come me. Comunque, due note. La prima è che un 20-25 anni dopo, la gente gioca, anzi 30 anni dopo, la gente gioca ancora Call of Duty e i vari first person shooter con la tastiera e con il mouse, cioè con la combinazione tastiera più mouse. E l'altro caso è che comunque, se tu vai a vedere giochi come, io mi ricordo le Olimpiadi, Daley Thompson Olympics, qualcosa del genere, Decathlon, esattamente. Sì. Il fatto di dover correre, ad esempio il salto a ostacoli, comportava che tu dovessi premere ZX freneticamente per dare diciamo l'impeto di corsa al giocatore. Finito quello, tu praticamente buttavi via lo Spectrum, cioè né più né meno. Poi c'è una cosa, lo Spectrum sotto ha una membrana. Peccato che lo Spectrum, adesso se uno compra uno Spectrum, la prima cosa che deve cambiare sono le membrane, e c'è un mercato di retrocomputing e di retropezzi sulle membrane. Lo so per esperienza, perché ho un po' di Spectrum e alcuni hanno la membrana che è andata, in altri casi invece funziona ancora. Mentre nel 64 bene o male funzionano tutte le tastiere, cioè un po' più difficile, sì, sì, era costruito un pochino più solido. No, certo. Sì, sono abbastanza, se ti ricordi quando abbiamo usato insieme lo Spectrum, sono abbastanza malato da ricordarmi che è POC 23609, un valore tra 0 e 255. Se avete un emulatore, fate la prova e fate POC 23609,0, azzerate il click della tastiera. Se lo mettete a 255 avete un beep lunghissimo. Ed era una cosa controllabile, ma era una delle poche cose che facevi a POC. Mentre invece POC e PIC su 64 erano indispensabili per fare qualsiasi cosa, lo Spectrum invece, per tracciare un arco di cerchio, una linea, una qualsiasi cosa, c'erano dei comandi in BASIC, che era ovviamente interpretato, non era compilato, era molto più lento, però era immediato, cioè tu potevi fare dei programmi lenti, ma li potevi imparare a programmare, mentre invece su 64 era un disastro, dovevi imparare per forza 6502 oppure attendere l'uscita del Simon's Basic, che è stata la prima grande evoluzione. Senti, lasciami finire questa cosa con il joystick. La Kempstone, che era, no, perché è una roba che fa ridere, dato che è uno dei punti che abbiamo messo nella scaletta, il fatto che, porca di una miseria, Sinclair non aveva capito che era una console per videogiochi, ma non l'ha capito assolutamente, perché chi è arrivato è stata questa benedetta Kempstone, un produttore di terze parti, che ha cominciato a costruire la prima interfaccia a singola porta da joystick da 9 poli, e praticamente è diventata lo standard. Se voi andate a vedere i giochi ancora di adesso, riportano joystick Kempstone. Sì, selezione classica, è 0 Kempstone, 1 tastiera. 1 keyboard, esatto. Sì. Solo dopo è arrivata Sinclair con la sua interfaccia per i joystick, e tra l'altro anche con l'interfaccia per le cartucce, anche lì un flop micidiale. Ma è arrivata in maniera tardiva, e soprattutto, che cosa che fa ridere al giorno d'oggi, è arrivata in emulazione Kempstone, perché alla fine era talmente diffuso come standard di mercato che praticamente era sinonimo del joystick sullo Spectrum. Però sai, c'è una cosa, in entrambi i casi, poi lascio la parola a Gianluca, ma in entrambi i casi si tratta di una contrapposizione tutto sommato costruttiva, perché tutte e due le macchine hanno costruito un'intera generazione di programmatori e di appassionati di computer, per cui per quanto mi riguarda Va bene così. Chi ha scelto ZX Spectrum ha fatto una scelta precisa, a volte forse inconsapevole, a volte forse estremamente consapevole, ma comunque una scelta precisa, che era una scelta dettata da alcune specificità della macchina Sinclair, che potevano essere ovviamente anche l'economicità rispetto alla macchina magari Commodore, e quindi ci si domanda, magari nella riflessione che viene di seguito, ma stiamo parlando veramente di computer war, cioè nel senso di una scelta relativa all'amore verso una macchina piuttosto che un'altra, o una scelta economica? Ma questo penso si sia ripetuto un po' per tutte, no? Anche io avevo l'Amiga, odiavo l'ST e le console perché la console costava troppo, quindi immagino che questa cosa sia stata sentita molto soprattutto da quelli che magari hanno comprato lo Spectrum per una scelta anche dal punto di vista economico. Chiaramente spendere la metà, se non meno, rispetto ad un Commodore 64 ti faceva pesare anche di più alcune mancanze dal punto di vista tecnico, e quindi ti favi ancora di più per la tua squadra quando riuscivi a dimostrare delle cose che magari l'altro computer non poteva permettersi. Quindi secondo me c'era questo meccanismo che alimentava un po' la competizione. Io parlo per me, io sinceramente, dunque, a parte che a me piaceva Sinclair, detto proprio, ma anche esteticamente, ed era un, no, per me era anche una continuità rispetto allo ZX80. Confesso che ovviamente per me è stata una questione economica, e comunque ringrazio ancora i miei genitori per averlo comprato, ma soprattutto mia mamma per averci creduto. Uno, due, poi già l'Amiga, il terzo computer, l'Amiga 1000, me lo sono pagato già da solo perché avevo cominciato già a lavoricchiare, ma i primi due computer sono un regalo dei miei genitori. No, ma ci mancherebbe. Sai cos'è? È che in tempi non sospetti, già allora, appunto, io mi ricordo in fine della terza media, molti dei miei amici hanno chiesto la Saltafos, che era una bicicletta che nessuno ricorda, oppure qualcuno addirittura aveva il CHA. La Saltafos è bellissimo. La Saltafos costava 100. Vai a cercare una bicicletta con gli ammortizzatori. Tu non hai idea di quella bicicletta lì? Cazzo, guarda, è la roba più anni 70-80 che tu possa immaginare. Ma guarda che ti assicuro, sì, che era il Kawasaki Ninja dei tredicenni, cioè era una bicicletta fantastica. Aspetta, lasciami finire. Sto dicendo, io l'ho scelto. No, l'ho scelto per quello, e l'ho scelto per i soldi, ovviamente, perché non potevo. Ma avessi potuto permettermelo, io li avrei presi tutti. Avrei preso l'Apple 2, avrei preso il Commodore 64. Li avrei voluti provare tutti, cioè non avrei avuto forse già allora, come dire, spirito di parte così disgraziato. Gianluca, io ho preso l'Amiga 1000 a luglio dell'86, era appena arrivato in Italia. Costava 3 milioni e 100. Erano tutti i miei risparmi, avevo cominciato a collaborare con le riviste, era una roba devastante dal punto di vista economico e anche fisico, perché cioè un computer con lo spazio, il tavolo, il monitor, tutto mio, era una roba epocale. Mi sembrava di avere Belen Rodriguez in camera e col monitor, peraltro. E comunque tutta questa cosa qua, nonostante tutto, io avrei voluto provare anche l'Atari ST, e non è che lo ritenessi inferiore, perché comunque avevo degli amici che facevano musica con l'Atari ST e sapevano fare musica a livelli fantastici col Notator o con, come si chiamava l'altro, Proteus, credo, dei software di editing musicale, facevano delle cose strepitose. Una cosa va riconosciuta allo ZX Spectrum, perché sebbene le sue potenzialità videoludiche da un punto di vista proprio strettamente tecnico erano inferiori magari a tante altre macchine, in particolar modo erano inferiori al Commodore 64, di certo lo ZX Spectrum ha creato una cultura e soprattutto ha stimolato probabilmente una generazione di programmatori, e soprattutto una generazione di programmatori geniali, che comunque erano oltretutto costretti a superare questi problemi tecnici, come il tanto citato in più occasioni il Color Clash, ad esempio. Allora, adesso, a parte che lasciamo la parola ovviamente a Gianluca, sì, ma per gioco forza, nel senso che andando sul monocromatico finivano per essere cioè, allora, il Color Clash imponeva il monocromatico imponeva una maggior dettaglio. No, aspetta, dobbiamo dare la parola a Gianluca, credo, in questo momento. No, voglio dire prima un attimo una cosa sulla libreria, ma vai. Ma vai. Go Gianluca. No, riguardo alla libreria di cui parlavamo prima, del alla profilo del dello ZX Spectrum dal punto di vista ludico, dal quale poi che poi deriva appunto dal Color Clash. Secondo me la libreria dello Spectrum in generale si vende peggio rispetto a quella del Commodore 64. Secondo World of Spectrum, che sarebbe praticamente la bibbia assoluta totale dello Spectrum, che raccoglie tutti i dati di qualunque gioco sia stato mai pubblicato, vi sono stati qua circa 24.000 videogiochi per questa piattaforma. Sì, quindi lasciamo, chiaramente c'è tanta roba di scarso interesse, sicuramente sono conteggiati anche i cloni, ma è comunque una mole incredibile. Eppure, soprattutto per quelli della mia generazione che hanno vissuto magari lo Spectrum un po' tardivamente, no? Io, cominciando a giocare magari a 7-8 anni, tu avevi una macchina già non più nuovissima e così via. Si vendeva peggio perché all'epoca tirava molto l'arcade game. Tutto ciò che faceva rumore a quell'epoca era soprattutto il gioco d'azione, soprattutto per chi era più giovane. Quindi si diceva anche della capacità dello Spectrum di crescere programmatori, crescere gente con una visione diversa dell'informatica rispetto all'utente occasionale. Purtroppo questo era soltanto una parte del pubblico, forse la più piccola, e sicuramente in Italia era più piccola di quanto poteva essere in Inghilterra. Quindi secondo me lo Spectrum non è stato popolare quanto il Commodore 64, anche per una tipologia di gioco, se vogliamo, anche più intelligente che ha proposto. Poi parleremo dei giochi che sono usciti, sono tutti molto elaborati, non sono tanto intuitivi, è difficile che trovi lo sparatutto spensierato. Sì, ce ne sono tanti anche di quelli, però comunque magari erano quelli con l'idea geniale sotto, oppure con una tecnica rivoluzionaria alle spalle. Vedremo che poi su Spectrum ci sono stati tanti debutti anche di alcuni generi videoludici interi, come i real-time strategy, poi vedremo, insomma, i giochi isometrici, ce ne sono stati tanti di molto importanti. Sì, e quindi credo che sia una questione anche di vocazione delle macchine. Il Commodore 64 aveva uno stratagemma per realizzare uno scrolling fluido in maniera abbastanza relativamente semplice, insomma. Lo Spectrum, per realizzare uno scrolling fluido, doveva sudare, doveva avere un programmatore capace di riuscire a creare delle routine particolarmente efficienti. E poi c'era un'oggettiva difficoltà nel rappresentare delle immagini, e quindi il Color Clash, di cui ci parlerà Stefano, gli passo immediatamente la parola. Mi fai parlare proprio della cosa più fastidiosa, cioè questa era la pecora nera, la vergogna, la lettera scarlatta dello Spectrum. Allora, quello per cui tutti si il marchio proprio dell'infamia. Allora, il motivo per cui tutti quelli che avevano 64 prendevano a sperleffi e spernacchi e chiunque avesse uno Spectrum, perché dicevano: ok, tu prova a mettere tre colori in una matrice 8x8 di pixel. Dunque, diciamo sta cosa, diamo un po' di numeri. Il Commodore 64 aveva 320x200 punti indirizzabili in una palette di colori di almeno 16 colori. Lo Spectrum aveva 256x192 punti indirizzabili in 8 colori. Attenzione però, 8 colori più altri due attributi, che erano la brightness, cioè la luminosità, diventavano finti 16 colori. Il problema è che questi 256x192 erano suddivisi in una scacchiera di 24x32. Ci arriviamo, non è difficile. L'effetto pratico di tutta questa vicenda è che in una qualsiasi matrice di 8x8 pixel non ci potevano essere più di due colori. Il terzo colore a entrare in questo menage a due, più che menage a trois, faceva fuori il colore precedente. Quindi, se voi avete uno schermo, cioè uno sfondo di un qualsiasi videogioco, e avete un personaggio che ha un altro colore, quando questo personaggio entra in questo sfondo, automaticamente tutta la matrice 8x8, che è la matrice corrispondente a un carattere dello Spectrum, cambiava automaticamente colore. Questa cosa è, diciamo, il marchio di fabbrica dello Spectrum, è il motivo per cui molti giochi dello Spectrum addirittura erano quasi, non dico esteticamente presentabili, ma insomma, allora era una cosa che la maggior parte dei giocatori tirava un così, si tappava il naso, tirava avanti. Chi aveva il 64 questa cosa assolutamente se ne sbatteva le balle. Il punto è che i programmatori per Spectrum risolsero il problema principalmente in due maniere. Uno, sbattendosi nelle palle, per l'appunto. E ci sono dei giochi che sono stati dei grandissimi successi che avevano un orrendo color clash. Il secondo, come dire, la seconda risoluzione del problema veniva dal fatto di tranciare i colori. Ed ecco tutta una serie di giochi, molti quelli in isometrica, ma molti anche proprio i giochi della Ultimate che è stata appena citata, che sono sostanzialmente in monocromatico, sfondo nero e colore rosso, sfondo nero e colore bianco, cioè bianco e nero sostanzialmente. E questo, diciamo, togliendo la componente cromatica, ci si poteva concentrare su una maggiore precisione. Ora, tra un 320x200 e un 256x192, se tu perdi il cromatismo e ti devi solo concentrare sul bianco e nero, tu puoi fare qualcosa di ancora più definito, ancora più dettagliato. Non c'è questa grandissima differenza. Diciamo che sostanzialmente è come avere una fotocamera da 6 megapixel e una da 8 megapixel. Butto lì la cosa, qualcuno probabilmente mi tirerà dietro una pietra, ma l'idea è sostanzialmente quella. Non stiamo parlando di una fotocamera della Barbie rispetto a una Nikon da 7.000 euro, tanto per intenderci. Per cui il punto di partenza è questo. Molti dei giochi, Gianluca ha fatto notare una cosa, non sono del tutto d'accordo, ma è un'osservazione molto interessante, cioè che molti giochi dello Spectrum erano più complessi, non so se più intelligenti o chissà che cosa, diciamo sicuramente erano diversi. Una delle altre cose che comunque lo Spectrum ha lanciato, e questo, i 24.000 titoli di World of Spectrum riflettono anche le software house domestiche, i ragazzini che si sono messi in cucina a decidere di fare un videogioco e senza internet, ma semplicemente diffondendo la cassetta tramite un circuito di distribuzione, lanciavano un successo mondiale, o meglio un successo europeo, diciamo così, non andiamo sul mondiale. Ci state ancora o siete addormentati? No, stavo riflettendo su queste cose, facendo le ricerche per il podcast ho letto molte storie di questo genere. Ecco, infatti, ma ce ne sono veramente tante. Una delle riviste dal punto di vista graficamente editoriale più brutte della storia si chiamava Your Sinclair, io ero abbonato, era una rivista che ti assicuro avrebbe potuto impaginare, credo, non so, Antonio Banderas mentre nutriva la Rosita. Ecco, era veramente orrenda, però raccontava del tizio che nel garage, te lo facevano vedere, o nel retro del tinello tipicamente inglese, tra una teiera e una bustina di tè, aveva inventato Football Manager, tipo Kevin Thomas, cioè sì, sì. Gente di questo genere. L'altra cosa che ha generato lo Spectrum, appunto per questa competizione, era il porting. Cioè la cosa fondamentale, e in questo secondo me il color clash è stato un elemento distintivo dello Spectrum, il fatto che Ultimate e la Ocean, che comunque erano software house che via via sono cresciute e sono diventate tra le migliori di quel periodo, hanno preso lo stesso titolo, in alcuni casi partivano da un arcade tipo Moon Patrol o altri simili, e ne hanno fatto il porting per Sinclair, per Commodore 64, per Oric, per BBC, per l'Atari. Sì, ma soprattutto perché magari oggi abbiamo delle spiegazioni, ma se vai a prendere l'utente del 1985, per dire, non poteva capire, l'utente medio, voglio dire, non capiva il color clash. Ma cos'è lo Spectrum? Quel computer con i colori schifosi che cambiano di continuo. Si limitava a questo, per questo dicevo è difficile che riesca a vendersi, era difficile riuscire a vendersi bene per lo Spectrum, perché i suoi limiti tecnici, che erano anche comprensibilissimi, come ci ha spiegato benissimo Stefano, per questioni di costi di produzione, per tantissime cose, erano difficili da comprendere, sembrava semplicemente un difetto stupido il color clash, invece non era assolutamente nulla di tutto questo, e anzi veniva magari anche ignorato un lavoro faticosissimo di ottimizzazione della grafica che svolgeva il poveretto di turno, insomma. Sì, programmatore che diceva perché... no, piuttosto vado a risolvere il problema della fame in Africa. Sì. Se posso scegliere vado a fare quello. e si inizia a parlare di videogiochi, dato che siamo in archeologia videoludica, e non potevamo chiaramente non citare, non parlare Ultimate Play the Game. Sì. Parliamo di Ultimate solo per un motivo, perché ci permette di introdurre, secondo me, alcuni dei giochi che sono, a tutt'oggi, ne abbiamo parlato anche in archeologia informatica, dei capolavori. Uno dei capolavori, lo premetto, sono gli scacchi da 1K per lo ZX81. Lo so, perché questo disgraziato che li ha scritti è un genio, cioè ha scritto in 620 rotti byte un gioco degli scacchi. Adesso io sfido chiunque, incredibile, in linguaggio macchina. Non solo, ma le prime versioni erano state pubblicate su Your Computer, praticamente in open source, diremmo oggi. In una pagina, quanto occupava? Sì, cioè, sì, una roba, sì, era più digitale sto cazzo di linguaggio macchina, scusa, che piuttosto che neanche stare a pensare. Ma aveva introdotto quasi tutte le regole. Ovviamente la grafica non c'era, perché tu avevi delle lettere che rappresentavano i singoli le pedine. Però sostanzialmente è un gioco degli scacchi. Cioè, 1K Chess ancora oggi è oggetto di studio come programmazione. Vai con Ultimate Play Day Game, che poi riprendiamo questo tema. Io ora non ho i dati di vendita sotto mano, però immagino che i giochi più venduti su Commodore 64 perlomeno siano state delle conversioni. Su Spectrum no, perché appunto si era formata questa cultura che dava molto credito ad altre tipologie, però tu non potevi non convertire, per dire, addirittura hanno convertito Street Fighter su Commodore 64 e Spectrum con risultati che... terribili, e sicuramente però sono stati tra i giochi più venduti in quel periodo. Uno dei franchise più riutilizzati è stato Manic Miner e Jet Set Willy, che sono due avventure testuali, diremmo forse due platform game, però siete voi gli esperti di giochi. E in realtà le versioni, io ricordo Your Computer, che era totalmente disappointed dalla versione per Commodore 64, laddove invece la versione per Spectrum, che era di una semplicità disarmante, era la prima versione a poter vantare, non so, 400-500 stanze, una più incasinata dell'altra. Cioè era un, come dire, un puzzle, un rompicapo superare tutti questi cavoli di livelli, saltare nel pixel giusto, cioè c'è questo personaggio che deve superare trabocchetti di tutti i generi. È un rompicapo forse fatto più per la semplicità che non per l'esaltazione grafica. Mi viene da fare un piccolo esempio: nelle console portatili ha vinto il Game Boy, che non era l'Atari Lynx, avendo davanti sia l'Atari Lynx, no. Però in realtà era un Atari. Simone, non so se l'ho fatto vedere quando siamo stati qua. Esatto. Quello sì. Però era comunque una piattaforma Atari. Rispetto a un Game Boy, cioè aveva il colore, anche il Jaguar, esattamente. Il Game Boy era molto semplice, monocromatico, di una banalità micidiale, con un processore 8-bit e una banalità strutturale. Però i giochi erano assolutamente giocabili. In alcuni casi, secondo me, lo Spectrum è per certi versi più un Game Boy, ha più vinto sulla giocabilità. Vai con Ultimate, scusami. Sì, vabbè, presentiamo un po' la Ultimate, che è una compagnia che secondo me molti conoscono soprattutto perché si è evoluta in quella che è diventata la Rare, che ha fatto la fortuna di Nintendo e altre console, e tutte le console di questa compagnia successivamente. Però dal 1982 fino al 1988 è stata la Ultimate Play the Game. L'hanno fondata due ex programmatori di giochi arcade chiamati Tim e Chris Stamper, e da quel momento hanno appunto conquistato la stima di tutto il mercato degli 8-bit. Hanno realizzato un bel po' di giochi, ne realizzavano diversi all'anno, quindi sempre con una qualità estremamente sopra la media. Hanno venduto tantissime copie, soprattutto in Inghilterra chiaramente, ma poi anche in tutto il resto d'Europa, grazie alle conversioni soprattutto per gli altri formati, dato che dalle nostre parti, per dire, era molto più diffuso il Commodore 64, che comunque ha avuto adattamenti molto rispettabili di questi videogiochi. Io avevo scelto tre titoli, possiamo parlare di 3-4 titoli magari che rappresentano dei punti fondamentali dello sviluppo di questa di questa software house, che ha debuttato sul mercato con Jetpack, che è il primo di una mitico, trilogia mitico. Il mitico Jetpack che è uscito nel 1983 e è stato poi i suoi successori sono stati Lunar Jetman e Solar Jetman, che è arrivato addirittura sul NES, quindi è stato uno dei primi giochi che ha fatto il salto nella Rare, nella storia della Rare. E Jetpack ti portava su nello spazio, dove dovevi saltare su tre piattaforme per prenderti cura fondamentalmente del tuo shuttle. Dovevi prima costruirlo, poi riempirlo di carburante e poi praticamente ripetere questo per tutti i livelli successivi, chiaramente sempre con maggiori difficoltà e con diversi mostri che ti saltavano intorno. E con diversi mostri sì, cambiavano. Posso dire una cosa su Jetpack? Certo, certo. Scusa. Allora, Jetpack funzionava in 16K. Jetpack senza gli sprite, se voi lo guardate oggi, non su un emulatore, su uno Spectrum vero, secondo me è un capolavoro. Perché lo sprite dell'astronauta o lo sprite dei cattivi è di una fluidità meravigliosa. Cioè, tenete conto che è una roba che gira grosso modo in circa 11K di RAM veri. Me lo ricordo anche per un altro motivo, perché essendo un gioco per 16K ci metteva molto meno a caricare. Quando uno doveva fare quello che si chiama al giorno d'oggi casual gaming, cioè farsi una partita e basta, sceglieva anche un gioco che da cassetta ci mettesse poco a caricare. Non ti mettevi a caricare una roba che ci metteva 42 minuti, salvo poi interrompersi negli ultimi due durante il caricamento e andare a carte 48. Sì, ecco. Sì. Jetpack secondo me è un altro capolavoro, è come 1K Chess, perché è stato scritto all'inizio della storia dello Spectrum, quindi non quando i programmatori avevano sviluppato librerie e sistemi di sviluppo complessi, e funzionava sulla versione base dello Spectrum. Altro punto fondamentale rispetto al Commodore 64, cioè il fatto di avere una macchina da 16K poi upgradabile anche dall'utente a 48K ha aiutato la gente comunque a cominciare a comprare 16K, che poi di giochi a 16K ce ne fossero veramente pochi, perché da subito è diventato quasi essenziale passare a 48K, un'altra parte manica. Però gli annunci di Ultimate Play the Game, cito due o tre titoli. Uno è PSST, che è lo spray contro degli insetti schifosi, che è divertente, secondo me se qualcuno si rimettesse a fare lo stesso gioco su iPhone o su Android sarebbe il Flappy Bird di quest'anno. No, veramente, è talmente semplice, è talmente banale. E l'altro è Transam è una funziona anche quello in 16K, è una macchinina che va in vaga per gli Stati Uniti e deve raccogliere delle coppe. Naturalmente si ha la possibilità di avere la mappa degli Stati Uniti, ma una viewport, una visuale molto limitata, per cui non si sa esattamente dove siano piazzate queste coppe. Ovviamente ci si deve correre, naturalmente c'è il carburante che va a decadimento, cioè a consumo, bisogna recuperare anche il distributore di benzina, e ci sono dei cattivi, cioè delle altre macchine che tentano di schiantarsi inevitabilmente contro di noi. È un giochino un mica po' alla Rally X. Esatto, però diciamo mentre Rally X aveva il percorso predefinito, qui avevi qui tutti gli Stati Uniti e potevi il andare dal Canada al Messico, salvo poi rimbalzare scoprire che i confini si rimbalzano, si va oltre e praticamente potevi andare ovunque e scoprivi anche i giochi dell'Ultimate erano accolti da un grandissimo favore popolare, cioè non si aveva la percezione che ci fosse una grandissima industria dietro, ma si aveva la percezione dalle riviste inglesi soprattutto che fossero molto seguiti. I sequel che scusa no, è l'entusiasmo, no, chiedo scusa. No, ma secondo me è proprio come dovremmo fare, perché l'informazione che riesce a dare Stefano su qualsiasi cosa è spettacolare, assolutamente. No, per carità. Comunque ne approfitto anche per dire che è spettacolare la mappa di Transam degli Stati Uniti, che con questa macchina che si muove quasi da uno stato all'altro in pochissimi secondi, sì. Veramente. veramente fantastica. No, volevo introdurre magari gli altri titoli della Ultimate che avevo scelto, tra i quali sempre del 1983 Attic Attack, che secondo me dal punto proprio di vista visivo è bellissimo ancora oggi, perché praticamente parla, è un action adventure, noi oggi lo definiremmo tale, in cui si controllava un personaggio che poteva essere scelto fra tre tipi diversi con caratteristiche diverse, quindi l'esperienza cambiava a seconda di quello che sceglievamo. Questa era già un'introduzione importante nei videogiochi, e appunto il nostro eroe doveva cercare tre pezzi di una chiave che aveva l'iniziale, tra l'altro, del nome alternativo della compagnia Ultimate, e doveva cercarli in questo grande castello pieno di stanze, rese con una grafica veramente meravigliosa. Io magari possiamo allegare alla fine del podcast anche dei video, è bellissimo come? Dobbiamo, certo. Morare, sì. È bellissima anche la, per esempio, per dire, il disegno delle scale, no? Che hanno una finta prospettiva semplicemente adorabile. E un attimo che vi linko anche a voi nella chat, esatto, il sì. Video del gioco. E quindi c'erano questi oggetti da trovare, rappresenta tra l'altro Attic Attack anche il canovaccio sul quale si fonderanno moltissime altre produzioni della Ultimate Play the Game, cioè cercare un oggetto, cercare la porta dove applicare quella chiave e così via. Tanta azione, comandi semplici. Non è chiarissimo sempre il da farsi, ma comunque c'è soprattutto da esplorare e raccogliere quello che si trova. Fra l'altro ricordo che questo divago un attimo, nel senso che molto spesso ho letto che nei videogiochi la barra delle energie è stata introdotta da Kung Fu Master, si tende a parlare sempre di questi titoli molto famosi per quanto riguarda le introduzioni. In realtà Attic Attack già introduceva la barra dell'energia, solo che era meno sfacciata, infatti era camuffata da pollo che si consumava ogni volta che un nemico ci colpiva, quindi in realtà l'Ultimate Play the Game ha anche questo merito. Abbiamo intervistato, io conosco sia Steve Kulka che Simone Maiocchi, che erano quelli che avevano creato Run, che era la prima rivista per videogiochi, cioè la prima rivista per lo Spectrum su cassetta, e ci raccontavano che loro in realtà avevano cominciato costruendo loro i programmi, salvo poi saltare sul vagone di tutti gli imitatori della stessa Run, in che avevano cominciato a prendere tutti i vari giochi in originale e poi li avevano rinominati in italiano, che allora era uno sport. Sì. C'era anche una certa maestria nel tradurre proprio i giochi, perché andavano a beccare i singoli punti nelle bitmap dove venivano scritte determinate cose, cioè non era proprio così banale. No, solo che a volte facevano delle cose atroci, soprattutto per appunto quelli che per la mia età. No, a parte le traduzioni, ma proprio tagliavano dei pezzi di gioco. Per dire, io avevo un Ghost and Goblins che aveva solo il primo livello, perché dopo, per metterci altri giochi nella cassetta, hanno ridotto il codice proprio al minimo indispensabile. Quindi avevi questi mini giochi. Quindi avevi Ghost e basta. Solo Ghost. O Goblins. Esatto. E ora vi mando anche un altro link, e secondo me anche questo qui avete trovato in qualche altra compilation. Quello vero della Ultimate si chiamava Sabre Wolf, che non so se la pronuncia è corretta, Stefano, correggi. No, è bellissimo anche questo. E qui sì, Color Clash alla grande, proprio. Sì, Color Clash a manetta. Ma qua ci ha messo della verdura, cioè, mi ricordo gli sfondi. Sì, questo è coloratissimo. Sì. Ma la cosa divertente è che molte riviste che hanno recensito Sabre Wolf dicevano che sembrava che lo Spectrum fosse andato avanti di una generazione. questa grafica veniva percepita come Next Generation, sì, praticamente. Per chi non sta guardando il video, ovviamente lo diciamo, Sabre Wolf andatevelo a guardare, ma comunque Cyberwolf è un action adventure anche in questo caso, come dicevamo, che si ricollega a Attic Attack come meccaniche, in cui controlliamo un avventuriero nel mezzo della giungla che viene rappresentato appunto con un verde, il verde dello Spectrum. Se conoscete lo Spectrum sapete di cosa sto parlando. Esatto, con le montagne magenta, tra l'altro, poi in altre sezioni. E, però il gioco è molto bello. E se notate, ci sono anche delle animazioni molto molto curate, con moltissimi frame di animazione. Soprattutto se pensiamo ai giochi tipici dell'epoca, insomma, che erano molto più essenziali. Qui è tutto molto, molto fluido. Ed anche la definizione degli sprite è comunque ottima. Questo viene considerato un classico. Sì, non aveva poi quel problema del color clash. Sì, io butto lì una cosa, perché adesso rivedendolo mi vengono in mente alcune cose. Ci arriviamo dopo, perché dopo c'è un gioco in scaletta che secondo me è proprio butta questo tema in assoluto. Nel palinsesto del programma. Comunque, forse, i giochi per Spectrum avevano molto senso di humor. Allora, molti di questi giochi, a partire da Tic Attack, ma anche School Days, molti giochi avevano veramente delle buttate di umorismo. Jet Set Willy e Manic Miner avevano delle cose che rasentavano la demenzialità. Gli altri forse erano un pochino più seri da questo punto di vista, pur essendo dei giochi. Cioè, qui c'erano veramente delle cose stupide. L'unica cosa che mi viene in mente è Leisure Suit Larry, non so se l'avete presente, che era che era quasi boccaccesco, se vogliamo vedere, per i tempi. Sì, era... sì sai, per i tempi, gli standard di oggi fa ridere i polli, però ecco. Però c'era molto senso di humor. I personaggi qua, i puffetti, tutti i vari personaggi erano molto, secondo me, anche divertenti. Se voi andate a vedere Manic Miner, c'erano molte stanze con delle invenzioni che ancora oggi, secondo me, farebbero ridere. Così, è una mia impressione. Rivedendo adesso il walkthrough di Saberwulf e anche di Attic Attack, che tra l'altro il personaggino moriva in una maniera... diventando scheletro, cioè anche abbastanza cattiva, tutto sommato. C'era anche un un po' politicamente scorretto, tu dici. C'era meno sensibilità verso gli animali all'epoca, assolutamente. Ma tra l'altro, ok, faccio un off topic clamoroso, vabbè, però visto che è uscito, facendo una rubrica sul mio canale mi sono imbattuto in un videogioco della Konami del 1992 che si chiama Noah's Ark, mm-hmm. l'arca di Noè, in cui c'è Noè che ammazza animali a ripetizione, cioè spara animali, cioè, è un massacro totale, e praticamente lo fa perché deve andare a prendere gli animali giusti da portare sull'arca. Questa però nel frattempo, vedi che però era... spazza tutto. No, questa qua era Gioppe Covatta che dice, voi... Sì. No, perché aveva fatto una parodia. Esatto, sì, tu sei l'ircofante. E dice, come mai non è sopravvissuto l'ircofante? Quel giorno Noè stava a bioccare, cioè, le balle viene, prese due ircofanti, li mise sull'arca. Sì, ma erano due ircofanti maschi. E quando cazzo si accoppiavano questi? Ecco, il motivo per cui ci siamo giocati. Vabbè. No, andiamo pure avanti. Insomma, vabbè, poi la Ultimate ha fatto chiaramente tantissimi altri giochi. Questa serie iniziata con Saberwulf, poi è proseguita con Nightlore, che è un titolo isometrico molto, molto riuscito, anche sempre basato sull'esplorazione, e Underworld, che invece cambia anche in questo caso l'impostazione del gioco, l'inquadratura, e un platform bidimensionale praticamente, ma ha sempre questa capacità, come in tutti questi altri giochi della Ultimate, di proporre una quantità spaventosa di schermate. Gli scenari, tutto l'ambiente di gioco era assolutamente immenso, e questo penso che Stefano possa darmi conferma, era sì, notevolissimo dal punto di vista della programmazione. Ed era anche per il motivo per cui la gente non comprava le riviste, perché le riviste di computer, Your Computer in Test o gli altri, riportavano come il paginone centrale di Playboy la mappa. Cioè il fatto del solving di un'avventura veniva riportato un posterone centrale in cui al posto della donna nudo c'era lo sviluppo di tutta la mappa di Underworld, di Manic Miner, Jet Set Willy. Eh. Pensa come siamo ridotti male. Ma oggi poi, ma il problema è che anche oggi la preferirebbe e ripreferirebbe sempre quella vecchissima mappa rispetto. Eppure, nonostante quindi tutto, si è abbassata lo stesso la vista. Guarda te delle volte. Ah, ecco perché, vedi. È vero, può darsi. Vabbè, e poi vai con gli altri titoli che stiamo andando benissimo. Ma in realtà poi la sì, ok, abbiamo già detto anche di Pst, come vogliamo chiamarlo, Transam. Poi la Ultimate in realtà si è un po' convertita, nel senso che ha guardato anche le altre piattaforme, ha cominciato a sviluppare molto su Commodore 64, tipo Dragon School, Entombed e così via, insomma. Quindi poi la sua love story, diciamo, con lo Spectrum si è, diciamo, chiusa soprattutto con la trilogia di Subwoof, Underworld e Nightlore. Quindi insomma, si sono aperti poi anche a un mercato più grande, sicuramente. Anche se è strano che non abbiano fatto delle conversioni, sinceramente. Io ho anche cercato, ma tipo Dragon School a me piaceva tantissimo sul Commodore 64, sono andato a cercarlo sullo Spectrum e non c'è. Non me l'aspettavo, perché poi all'epoca si convertiva praticamente di tutto, quindi non so come me abbiano scelto questo. Simpatica la discussione che ne viene che viene successivamente, sempre ovviamente dai grandi spunti di riflessione di Stefano Paganini, ben coadiuvato ovviamente da un Santilio in splendida forma, e abbiamo titolato questo brano che viene di seguito ZX contro il resto del mondo, il computer meglio delle console. Questa è una discussione, insomma, sulla quale puntare molto l'accento. Ascoltatela con attenzione. Citando VCS, anche Activision ha fatto delle cose, perché poi c'era anche il ritorno, diciamo, degli americani in territorio inglese nel tentare di invadere la piattaforma, vedendo come più che altro perché vedevano che vendevano, cioè c'è questo piccolo dettaglio che vendendo dice: per carità, non tiriamocene fuori. Poi per comandare il mercato americano all'epoca, beh, era anche più vario. Tu hai fatto un esempio però sui videogiochi, era l'ultimo periodo prima del grande crollo del mercato dei videogiochi. Sì, sì. E questi giochi, sinceramente, io mi ricordo quando ho cominciato con ZX80 c'era questo aspetto di totale inferiorità rispetto a un Atari o all'Intellivision. Molti miei compagni del liceo, del prima e seconda liceo, avevano l'Intellivision e mi sembrava che avessero l'Enterprise. A parte il suono, i colori, le cartucce, i giochi avevano una risoluzione micidiale. Poi l'Intellivision spaccava anche i portafogli dei genitori, perché mi ricordo che se penso adesso ai videogiochi, ci giochi, dopo 5 minuti se non ti sei rotto le balle poco ci manca. Allora tu devi comprare una cassetta e dire: io uso solo questa cassetta. I computer invece hanno avuto questa grande rivalsa, nel fatto che i giochi erano molto, ma molto più, come dire, avevano un ciclo vitale molto più complesso. Ne è dovuto arrivare di tempo prima di avere un'equiparazione con le console, da parte delle console intendo, e comunque hanno sempre avuto il vantaggio, tanto per dire una cosa che è sicuramente cara a Simone Pizzi, delle avventure, perché avventure, adesso ci arriviamo, ce ne sono alcune che assolutamente erano improponibili sulle console per videogiochi. In realtà poi un certo vantaggio sulle console l'avevano anche all'epoca, perché per quanto pochi fossero, diciamo, i 16K della versione più debole dello Spectrum rispetto a una console, un'infinità, ecco, quindi magari ci potevi fare tante cose, e per questo ti dico, magari tu vedevi l'Intellivision e dicevi: ah, che grafica, e quindi è riportato a elogiare l'Intellivision. Poi magari giocavi a invidiarlo fottutamente. Sì, però magari ci potevi passare tempo di qualità in maniera maggiore su uno Spectrum col gioco giusto, che magari era meno spettacolare da vedere, però ti prendeva di più, e perché aveva una complessità maggiore, insomma. Si sono evolute diversamente, cioè poi gli strategici giapponesi sono una cosa diversa, in effetti. Senti, poi rispetto agli strategici, se vogliamo nostri andare sulla complessità, tanto per dire che l'erba di vicino, o il videogioco del vicino, è sempre più verde, a parte il verde dello Spectrum. Io ti assicuro che il mio amico Alberto, se non credo mi stia ascoltando, ma in questo momento Alberto, io mi ricordo a casa sua, lui ha avuto prima l'Intellivision e poi il Commodore 64. Alberto Bonanomi. Ciao, ciao Alberto Bonanomi. Allora, che è un ragazzo simpaticissimo e insomma lo invidiavo fottutamente perché aveva, sì, aveva, ecco, però lui usava l'Intellivision perché sapeva giocare a calcio, a football americano, eccetera eccetera, e poi successivamente col Commodore 64, che io mi ricordo, Alberto perdonami ma credo che sia la verità, come l'80% dell'utenza del Commodore 64 sapeva fare solo shift e run stop, che era la sequenza di tasti per lanciare il caricamento del registratore cassetta. Anche io. Io invece da sfigato arrivavo con lo ZX80 e dalle prime volte, e però mi sentivo Bill Gates a riuscire a tracciare dei pixel 64x44 e dire: che cosa hai fatto? Ho fatto un cerchio, ed era una roba che ero a 64x44 pixel, praticamente è il display di un Nokia del 96, se ve lo immaginate, ok? Guarda che adesso, scusa Gianluca, ripeto che è giovane, ma io ti veramente questa me la ricordo. C'è stata, io mi ricordo dei genitori che hanno, c'è sempre il solito Moige, ma non credo fosse quello, adesso non vorrei citarlo fuori luogo, ma dei genitori che volevano proibire la visione di War Games in quanto avrebbe portato i figli sulla brutta strada. Mamma mia. Cioè, rendiamoci conto, cioè War Games era un brutto esempio al giorno d'oggi, ma anche con tempi sbagliati, perché poi se si va a leggere la storia di War Games si scopre che in realtà nell'82 è stato fatto con un IMSAI 8080 che era già vecchio di 6 anni, cioè volendo vedere avrebbero potuto farlo. Off topic totale, così Santiglio mi maledice tutti in una volta. Quando la gente della difesa americana vide la versione cinematografica del NORAD, disse: caspita, nemmeno la nostra è così bella. Il NORAD è il centro americano di difesa aereo, e nella scena finale ovviamente si vede tutta questa miriade di schermi che allora, per la tecnologia di allora, non esistevano dei videoproiettori, per cui erano tanti proiettori cinematografici che proiettavano delle cose completamente sganciate, o meglio agganciate e sincronizzate tra di loro, ma registrate in separata sede, indipendente, in maniera indipendente, esatto. C'è una nota in 2 o 3 testi, non solo su Wikipedia, che dice che quelli del NORAD dissero: ah, effettivamente potremmo farla così la nostra sala di controllo. No, ma anche meglio probabilmente. E poi comunque l'aspetto divertente di tutto questo, visto che abbiamo citato War Games, è il fatto che l'unica volta che è stato violato un computer militare è stato violato con uno ZX81, e questo ha contribuito più di qualsiasi altra cosa a rendere mitici gli home computer e a renderli invisi a certi genitori, a certa... pensate che una volta Pizzi mi scrive su Facebook: ti ricordi, cioè così a freddo, tu mi immaginate una giornata di lavoro, uno che ti scrive, cioè, ti ricordi quel gioco? Sì, ma il problema è che io me lo ricordavo, e questa è una cosa di... Bene, se molte cose le abbiamo già riassunte nella retro rassegna stampa del buon Morgan, che comunque oramai è entrato a pieno titolo a far parte di questa trasmissione, di questa evoluzione di archeologia videoludica che stiamo sperimentando, anche grazie agli errori che commettiamo, stiamo comunque sperimentando per la prossima stagione, è importante anche capire nell'ambito del mondo britannico, ma soprattutto anche all'interno del, cioè per quanto riguarda il resto del mondo, come è stata l'accoglienza di una macchina come lo ZX Spectrum. Molto veloci, è stato accolto con molto orgoglio britannico, è stato accolto con grandissima fanfara, perché comunque Clive Sinclair sapeva creare delle grandissime aspettative, sapeva creare anche della gente veramente incazzata, perché comunque prometteva delle cose e poi non le manteneva se non altro per tempo, perché comunque le prime consegne non erano esattamente rispettavano le aspettative ed erano un po' deludenti, problemi circuitali, versioni raffazzonate. La prima versione dello Spectrum era la tastiera grigia, quella che conosciamo noi è la tastiera blu. La versione con la tastiera grigia ha avuto dei problemi hardware devastanti. Lo stesso Spectrum ha subito 3-4 issue diverse della scheda madre. Il dissipatore di calore, che è la causa di quasi tutti i mali di quel maledetto macchinetto, negli anni ha subito varie forme ed è una placca metallica ritorta sulla quale si concentra tutto la dissipazione di tutto il calore del 7805, che è il regolatore di voltaggio. L'accoglienza del mercato è stata comunque notevole, a tutti i livelli, ivi compreso quello videoludico, perché comunque da un lato gli utenti potevano comprare un computer a basso costo, dall'altro lato chi sviluppava software e aveva voglia di sviluppare un gioco aveva la possibilità di rivolgersi a un'utenza abbastanza vasta, che avrebbe speso volentieri 9 sterline 99 per un videogioco, a fronte di un computer che ne costava 129 di sterline. Per cui era un incontro molto felice sul mercato, da tutti i punti di vista. Basta. Comunque ho letto, stavo curiosando su delle scansioni di Your Computer di agosto del 1982 e ho trovato appunto un articolo riguardante i ritardi clamorosi dello Spectrum, perché ufficialmente mi pare sia stato lanciato ad aprile, esatto, a maggio dell'82, e ad agosto c'era gente che diceva cioè, non arrivano questi computer, ce li abbiamo ordinati ma non ci stanno arrivando. È off topic dell'off topic, con il Sinclair QL la cosa fu amplificata all'ennesima potenza, tanto perché c'erano i micro drive, secondo perché il QL aveva un livello di complessità, il sistema operativo era sì, ma già erano i supporti fallaci, poi ecco, esatto, il sistema operativo era molto complicato ed era una scommessa spaventosa, tant'è che ci furono delle versioni distribuite esternamente con la ROM. E poi comunque il QL fu annunciato una data, e ora che c'è, le riviste inglesi a questo punto di vista è uscito ieri, sì, è appena arrivato. E il buon Clive Sinclair comunque è sempre riuscito tutto sommato, in questo devo dire che Commodore è stata carente di un personaggio carismatico, che non era Jack Tramiel ma è la Commodore dopo Jack Tramiel, o a parte Jack Tramiel. Non ha mai avuto un Clive Sinclair, che comunque era uno scudo che centrava qualsiasi cosa, perché lui bastava che entrasse con un'intervista in una rivista come Your Computer o Your Sinclair, due mesi dopo che la gente era incazzata perché non riceveva il computer, mi ricordo che le lettere con le risposte e le foto placavano gli animi. C'è stato un momento di British Invasion, perché guarda che ci sono dei nomi che sono totalmente passati nel dimenticatoio: il Dragon 32, il BBC Micro, l'Oric, l'Acorn Electron, ad esempio, tutti quelli della Acorn. No, e questo è il problema. Ma il fatto che, andando su una similitudine, diciamo, di un ecosistema biologico, in quel momento c'è stata quella che si chiama esplosione cambriana, cioè il fatto che biologicamente c'era un ecosistema ricchissimo, con sistemi i più disparati possibili. Banalmente, uno dei computer più ricercati adesso si chiama Jupiter Ace, che è molto simile a ZX80-81. Tra l'altro erano due ex ricercatori della Sinclair che sono usciti e hanno fatto un computer che non era neanche basato sul BASIC, ma era sul FORT, un linguaggio di programmazione di un ostico micidiale. Buongiorno, sono Massimo, classe 1971. Sono anche un vostro ascoltatore ed il felice possessore di alcune vecchie macchine 8-bit ancora perfettamente funzionanti. Sicuramente quella che ha rappresentato di più all'epoca fu lo ZX Spectrum, il 48K, preso in bundle con 8 giochi originali di cui conservo ancora le cassette. Riaccenderlo oggi ed attaccarlo a una TV, prima LCD, ora addirittura LED, e scoprire questa alta compatibilità con questi enormi televisori da 42 Full HD, ha il fascino di fermare il tempo. Per certi aspetti è un po' una torre d'avorio, è come andare in bicicletta, usare una macchinetta che hai usato a 18 anni, oppure riguidare il motorino di quando ne avevi 14, per chi come me ha avuto anche la passione dei motori. Indubbiamente una cosa mi pare evidente: anzitutto era un hardware fatto per durare. Oggi carico i giochi collegandolo all'iPhone, il registratore Philips Database MSX coevo del Sinclair mi ha abbandonato già da tempo in memoria, non riesce più a trascinare i nastri, li leggo direttamente quindi dall'iPhone con una app specifica, SpeciTape. Potrei leggerli anche in formato MP3 reperendoli già convertiti. Non credo che io mi metta a giocare più di tanto una volta caricato il gioco. Essenzialmente rivivo le emozioni, non faccio parte di quella specie di hardcore gamers di stile retro come qualche amico di mia conoscenza. Per quello lo faccio su console moderne. Io credo che ho lo stesso approccio che può avere un collezionista d'auto quando prende la vecchia Spider italiano e inglese anni 60 nel weekend per andare al bar, per andare in campagna solo se c'è sole. Ecco, io ho questo approccio, non lo metto più alla frusta, ma mi piace vederlo perfettamente funzionante. Quello che rappresenta oggi è quindi un legame con le origini, ma soprattutto la prova tangibile che a una certa epoca che c'è stata non ci sarà più, né per l'aspetto pionieristico né per la qualità di certi componenti. Considerazione molto soggettiva la devo fare nei confronti dello ZX, che secondo me ad oggi è ancora un oggetto che per dimensioni, colori e forme è estremamente moderno. Un gioco curioso che viene definito tra i must dello ZX Spectrum per ragioni che ascolteremo di seguito è Dizzy. Sì, possiamo parlare veramente di quello che ci viene meglio in questa puntata. Però come volete, vogliamo parlare di Dizzy e poi magari parliamo di School Days più avanti? Sì. Ok. No, volevo... Sì. Certo, saremo più sintetici. Dizzy volevo introdurlo perché è stata una delle serie portanti degli anni Ottanta. È nato su ZX Spectrum per mano degli Oliver Twins, si chiamava proprio così il team di sviluppo, ed erano ovviamente dei fratelli gemelli chiamati Oliver. E loro avevano creato qualche tempo prima una routine grafica, Oliver e Andrew Oliver. Avevano sviluppato per altre ragioni un programma di grafica chiamato Panda che permetteva la rotazione di sprite, lo faceva in automatico, e loro hanno deciso di realizzare un videogioco utilizzando appunto questa routine. Sì. Ma infatti no, vabbè, dai. Praticamente Dizzy è un uovo. Questa è la cosa bella, è un uovo. È un uovo perché appunto questo programma in realtà faceva un gran casino quando faceva ruotare questi sprite. Di conseguenza loro hanno scelto un modello molto semplice anche appunto per questo software, di modo che non creasse casini. Difatti, come si muove Dizzy? Cammina ovviamente e può rotolare, può fare delle capriole. È una serie di action adventure anche in questo caso, che appunto è uno dei generi più prolifici su Spectrum, come abbiamo visto anche dagli altri giochi. E Dizzy deve semplicemente muoversi in scenari bidimensionali a flip screen, quindi schermate fisse che si scambiano appena si arriva al limite dello schermo. deve cercare appunto degli oggetti, portarli nel posto giusto e risolvere in questa maniera degli enigmi. È stata una serie molto fortunata, ne sono usciti oltre 10 episodi, considerando anche gli spin-off. Gli Oliver Twins hanno curato i primi 3. Sì, tantissimi. Ma poi sono usciti su molte piattaforme, Commodore 64, Amstrad, PC, dappertutto, addirittura su Sega Master System è arrivato. E perché era ritenuto abbastanza divertente. Se devo dire la mia personale impressione, l'ho giocato su Amiga e mi ha fatto schifo da morire. Però in realtà su Spectrum, ora non riesco a trovare il dato esatto, ma mi pare abbia venduto tipo 500.000 copie fra tutte le uscite. E sì, tantissime, e ha rappresentato il 7% del fatturato totale della Codemaster, che era il publisher. Cioè, questi numeri pazzeschi. Posso aggiungere solo una cosa a questo? Per certo. Stronzata. Allora, con questo vetto e questa frettata, c'è un filone che in realtà riporta la terza o la quarta vita dello Spectrum. Dovete immaginare che nell'87 lo Spectrum era morto e sepolto. L'Amiga era uscito nell'85, sì. Nell'86 in Italia. L'Amiga 500 è del gennaio dell'87. Quindi, ecco qui, a chili proprio, ecco, a uova, a frittate. È il Color Clash alla Coq, famoso. E, cioè, tutta questa cosa qua dimostra come lo Spectrum nell'epoca Amstrad ebbe una vita fino al 91-92, e stiamo parlando ancora di vendite, cioè di software, di pacchetti software. Quando uscì nell'87-88 uno degli orrendi 007 con Timothy Dalton, uscì una versione dello Spectrum Plus 2 con la pistola, con la light gun e il gioco per 007. Questo vuol dire che ha avuto un ciclo vitale spaventoso, perché dopo 5 anni riuscire ad avere un gioco che fa un successo di questo tipo, ma quando mai? Cioè, è chiaro, voglio dire, sì, sì. Un successo soprattutto per un gioco, scusate adesso, ufficiamo oggettivamente orrendo. No, Dizzy comunque è micidiale, però Dizzy dà l'idea di quanto sia andato avanti il ciclo vitale dello Spectrum. Tra parentesi, i due ragazzi degli Oliver Twins l'hanno fatto prima per lo Spectrum e poi per tutto il resto. Sì, è nato lì. Allora, nell'87 mettersi a sviluppare per lo Spectrum è come al giorno d'oggi mettersi a sviluppare per il DOS 5.0, cioè, più o meno come idea. Boh, vabbè. Della PlayStation 2. Esatto, sì, esattamente. Trovare tecniche per risolvere problemi e soprattutto per bypassare limiti tecnici, così come abbiamo detto, ci porta poi alla fine a conoscere appunto queste tecniche, questi videogiochi, ma soprattutto ci porta a fare l'ennesima riflessione su sviluppare per lo ZX Spectrum in quell'epoca. Ne abbiamo parlato poco fa. In realtà lo sviluppo di questi sistemi, lo sviluppo dei giochi su sistemi come Spectrum, ecco, diciamo che una principale differenza rispetto al 64 è che in alcuni casi il 64 aveva dei veri e propri kit di sviluppo, e comunque c'era la possibilità di avere il floppy, di avere un sistema di sviluppo più complesso. Invece per sviluppare per lo Spectrum c'era solo lo Spectrum, punto. Per cui c'erano dei programmatori che si sono autoinventati gli strumenti di sviluppo, e devo dire che con grandissima intelligenza. Quando ho intervistato Maiocchi e Kulka di Run, mi hanno raccontato ad esempio di come avevano inventato le loro librerie grafiche per tradurre le 32 colonne dello Spectrum in 64, costruendo loro i font, facendo tutte le librerie grafiche per scrivere, e di come avessero loro un, ricordavano loro il nome, io in questo momento no, ma un grafico che disegnava su Spectrum. Al giorno d'oggi, senza tavoletta grafica o altre robe simili, non riusciamo a immaginare come potesse una persona con i tasti, con un joystick, a disegnare su uno Spectrum. Però allora succedeva. Solo una nota, Maiocchi, che tra parentesi vedrò in questi giorni perché è fuori salone a fare stampanti 3D, è un arzillo cinquantenne simpaticissimo che salutiamo, Maiocchi ricordava che quando è andato a registrare la testata giornalistica al Tribunale di Milano, lui aveva poco più di 18 anni, al Tribunale gli dissero: vabbè, ma dov'è la rivista? Perché c'era il blister che conteneva la cassetta. Allora hanno dovuto inventarsi 4 pagine semplicemente per dire che c'era la rivista, che era il cartaceo, e la cassetta, che era un di più. Io ero un comodoriano, non sono mai stato un possessore di Spectrum, sebbene, come spesso capitava, insomma, per i ragazzi della nostra generazione, all'interno del palazzo dove si viveva, capace che c'era l'amico con il quale sei cresciuto che aveva il computer opposto a quello che avevi tu, per diverse ragioni. E lo ZX Spectrum io ho avuto modo, insomma, di viverlo e di gustarmelo, e per certi versi anche di amarlo, sebbene sia stato uno di quelli che ha spalleggiato il Commodore 64 dicendo che era migliore, non sono mai stato poi così accanito, perché ad oggi, ma non soltanto ad oggi, riguardando alcuni giochi soprattutto, e qui rientriamo nel discorso della filosofia del programmare lo ZX Spectrum e della cultura anche di videogiochi che ha costruito lo ZX Spectrum, dando anche il via a tutta una serie tipo logica di videogiochi, non si può dire, insomma, di non aver amato questa macchina. E c'era un gioco in particolare nei quali, insomma, con il mio amico abbiamo passato veramente ore e ore, e chi non lo conosce è uno satramannu, assolutamente, come giusto che sia, e quindi noi ne abbiamo parlato in questo episodio, ne stiamo per parlare ed è School Days. Sì, l'aveva creato David Reedy nel 1984 per conto della Microsphere, questa compagnia, e l'ha fatto con la collaborazione di Helen Reedy, perché per un motivo molto importante lei è stata l'ispiratrice di questo prodotto. Sua moglie infatti faceva l'insegnante, quindi chiaramente tornava a casa, raccontava tutto quello che poteva accadere chiaramente in una scuola, cose che conosciamo tutti quanti molto bene. E allora questo programmatore ha voluto ricreare un po' quell'ambiente, chiaramente mettendoci qualche meccanismo capace di divertire. In realtà poi il divertimento di School Days è tutto intorno al vero obiettivo del gioco. Noi dobbiamo cercare semplicemente di rubare le pagelle che sono custodite nella cassaforte della scuola. Non sapevo che le scuole avessero casseforti con le pagelle, però qui ci sono, e per farlo è molto slegato da tutto il resto. Bisogna suonare degli scudi, bisogna far lampeggiare degli scudi nello scenario di gioco, quindi un pretesto per risolverlo, per portarlo a conclusione. Ma il bello è tutto quello che accade nel frattempo, perché il nostro avatar può muoversi liberamente all'interno più o meno liberamente, diciamo, all'interno dell'edificio scolastico, e il programmatore David ha voluto ricreare anche un senso di nostalgia negli utenti, perché voleva farli immedesimare il più possibile nella suggestione. Sì, c'è di tutto. Ci sono maestri che parlano, che ti dicono delle cose, torna in classe, fate questo. Ma soprattutto tu potevi rinominare tutti, ecco, i personaggi del gioco. Questa è l'idea geniale, guarda. Questa è l'idea geniale, perché poi ci sono tutti i figuri tipici delle scuole, c'è il secchione, c'è il bulletto, e ci sono i professori stronzi, e quindi tutto il resto, e tu potevi metterci i nomi di quelli che c'erano al tuo tempo a scuola, insomma, quindi potevi ricreare questo tipo di atmosfera, e tu potevi quindi fare un po' quello che volevi, potevi seguire le lezioni, quindi non facendo arrabbiare i professori, anche se potevi perdere il posto e poi magari ti mettevano delle note. L'obiettivo era quello di cercare la pagella e di non prendere troppe note, le linee le chiamano in questo videogioco, in inglese forse si dice così. Se arrivavi a 10.000 come punteggio, diciamo, perdevi, venivi espulso dalla scuola, e quindi la partita finiva. Ma nel frattempo tu potevi andare a scrivere su lavagne, potevi lanciare delle pietre all'insegnante o agli altri compagni, cancellini, sì, insomma. E quindi un gioco molto molto particolare, che è rimasto nel cuore di moltissimi utenti Spectrum, come avete già detto anche voi. Una rivista, Your Sinclair appunto, quella di cui parlava prima Stefano, ha stilato una classifica nel 2004, e questo School Days è arrivato al quarto posto. Quindi poi qualche anno più tardi c'è stato anche un seguito chiamato Back to School nel 1985, quindi un anno dopo, che riprendeva praticamente lo stesso soggetto e lo espandeva, sì, quello delle ragazze. Esatto, c'era quella delle ragazze, poi c'erano anche degli animali in più che potevano interferire, insomma, altra carne al fuoco, diciamo. Giochi molto, molto simpatici e interessanti, molto interessanti anche da vedere oggi. La grafica era molto ben fatta, secondo me, con la scuola anche in una specie di prospettiva, con le mura che si che assumevano, appunto, che seguivano una sorta di prospettiva. Molto bello. Io purtroppo questo l'ho perso all'epoca, non l'ho giocato in tempo reale, se così possiamo dire. Vorrei dire due o tre cose. No, vengono in mente alcuni ricordi. Allora, questa cosa qua credo di averci giocato, vorrei bisogna vedere quando è uscito, nell'84. Io mi ricordo un luglio, per cui o è luglio 84 o luglio 85, andavo verso i 18 anni, non ero esattamente un bambino, ed ero a casa di un mio amico e abbiamo giocato non a School Days ma a Basso la Scuola, che era già la versione italiana. Confesso obiecamente, tanto ormai penso che il reato sia prescritto, che la versione era copiatissima. No, per carità, però non era neanche la versione in inglese. Non avevamo le istruzioni. Allora, quello che ha detto Gianluca è particolarmente vero, perché comunque anche rileggendo la scheda su Wikipedia, riguardando il filmato e alcune note, senza le note, cioè senza le istruzioni di gioco, era una continua scoperta. Il fatto di poter picchiare gli altri, cioè, allora, intanto riproponeva, appunto, visto che la moglie del programmatore era un insegnante, quello che era il pessimo mondo scolastico inglese, dove fino a pochi anni fa anche il professore poteva picchiare allegramente gli scolari. Studenti. Non è mai stato particolarmente simpatico. Credo che solo Harry Potter possa rappresentare il mondo scolastico inglese come qualcosa di divertente. Per il resto, bullismo, nonnismo e tutte le schifezze che noi, al giorno d'oggi, i ragazzini devono sopportare, erano assolutamente presenti. Non so questa nota cosa voglia dire, però il bullismo. Ah, ecco, tu dici che il Vallo di Adriano dovevamo riergerlo. Comunque, sta di fatto che è una cosa che la rappresentava. Allora sinceramente non mi faceva così tanto, a parte appunto 17 anni, forse lo stavo vivendo ancora certe cose, ma non mi faceva così tanto effetto. Visto il giorno d'oggi è anche crudele per certe cose, ma è molto divertente e soprattutto è molto è ricco di sorprese ed è ricco di una di vari gradi di libertà all'interno del gioco, inaspettati per un platform game. Se noi pensiamo a un qualsiasi platform in cui il personaggio deve semplicemente alla Yoshi o Mario tirare testate di qui e buttare monetine di là, in questo caso invece i gradi di libertà sono quasi totali, perché il personaggio, l'Eric, può andare in giro un po' dappertutto, scrive sulla lavagna, può semplicemente dare dei calci agli altri compagni finché non becca le 10.000 note. Le fiondate. La genialità di poter customizzare il gioco dando i nomi ai singoli scolari, voi non avete idea, cioè, perché al giorno d'oggi noi possiamo customizzare dei giochi, pensavamo un World of Warcraft, una cosa di questo genere, come cavolo vogliamo, ma allora era una cosa geniale. Sì, sì. E tra parentesi, io e Luca, questo mio compagno di liceo, abbiamo subito dato i nomi ai pessimi compagni, cioè è stato proprio un secondo netto. L'altra cosa, rileggevo, che me la ricordavo sta cosa qua, ed era uscita su Your Computer, che Boy, il carattere, il personaggio di Boy Wonder scrive sulle lavagne una pubblicità di un altro gioco della Microsphere. Sì, l'in-game advertising. È bellissima questa cosa, non me la ricordavo, ma è vera. Ed è una roba, secondo me, geniale. Cioè, il fatto che questo gioco qua, tutto sommato, pur nel tema scolastico pessimo, ha proposto temi di customizzazione e temi di una libertà di gioco, di un gioco sostanzialmente senza schemi, perché comunque potevi andare in giro e esplorare la scuola, sebbene così base. A cazzeggiare a scuola, che è il massimo della vita, se ci pensi. Guarda anche il dettaglio nei vari personaggi, perché c'era l'insegnante di geografia, l'insegnante di scienze, l'headmaster, history master. Cioè, erano disegnati veramente bene. E poi comunque, ti ripeto, c'è amore da ridere, perché tu ne potevi fare veramente di ogni tipo proprio. No, volevo giusto aggiungere che esiste casomai appunto uno non sia pratico di emulatori, un remake del 1999 che potrebbe funzionare ancora oggi su PC. Chiaramente non è il gioco originale, la grafica è molto meno carismatica, però meccaniche sì. Sì, e in effetti è molto brutto anche da vedere questo gioco, però ecco, si chiama Class of 99, ma io consiglio l'emulazione, mi accodo a Stefano, non c'è, è facile, su World of Spectrum si trovano tutte le indicazioni, tutto il necessario, quindi la cosa migliore sarebbe quella. Comunque, gioco importantissimo, precursore se vogliamo anche di tante meccaniche di The Sims e tutti i giochi in cui puoi stare semplicemente ad osservare quello che fanno le persone. Esatto. I giochi come School Days hanno importato un certo concetto di profondità, ma quello che ha dato veramente probabilmente la programmazione di videogiochi su ZX Spectrum è il mondo in visione isometrica, quindi praticamente Anti-Attack, Never Earth, tutta una serie di giochi che sono nati e cresciuti sullo Spectrum come strategici anche in semitempo reale o in tempo reale, insomma tutta una serie di giochi che sono poi i prototipi di giochi che poi si sono sviluppati anche su PC e su altre piattaforme, sono nate sullo Spectrum, come è nato appunto il mondo in isometria. Io volevo presentare Anti-Attack e Never Earth perché sono due giochi molto importanti. Il primo è una sorta di videogioco sci-fi serie B, perché porta il tema degli animali mutanti, delle formiche giganti in questo caso. In pratica narra di due persone che si perdono in una città sconosciuta e noi possiamo scegliere a inizio partita se controllare il ragazzo o la ragazza, e il nostro unico obiettivo sarà quello di andarlo a cercare e salvarlo, a portarlo in salvo al di fuori di questa città. Anti-Attack è importante, e questo ci spiega anche quanto sia stato importante a sua volta lo Spectrum per aver dato il via a tante correnti videoludiche, a tanti debutti. È il primo gioco isometrico multidirezionale. Non è stato il primo gioco isometrico in assoluto, perché molti di noi ricorderanno il più famoso Zaxxon, che era uno sparatutto conosciuto in sala giochi e poi sulle altre piattaforme casalinghe. Ma Anti-Attack nasce per computer, quindi su un hardware molto meno performante di quello della sala giochi, e permette uno spostamento libero nello scenario di gioco. E tra l'altro secondo me è davvero molto bello da vedere, perché ha uno stile grafico tutto particolare, fatto molto pulito, con questa grafica, questi edifici fatti a blocchi in isometria, con la visuale che può essere anche ruotata, ed è davvero molto bello, molto di atmosfera. È lo shading che è realistico, perché c'è l'ombreggiatura e lo shading che è stato ottenuto semplicemente con un retino più fitto, che dà senso della profondità, ma in una maniera micidiale veramente. Sì, il gameplay è molto semplice, c'è da sparare e spostarsi, e da evitare, si gioca con da evitare con pochissimi tasti. Le partite sono diverse ad ogni tornata, perché il luogo in cui viene nascosto l'amico in difficoltà cambia di partita in partita. Che poi è una donna, quindi... c'è anche un aspetto di, perché tu hai detto che è sci-fi, ma lo è doppiamente, perché l'aspetto fantascientifico, allora l'aspetto realistico è il fatto che tu devi andare a salvare la donna, l'aspetto fantascientifico è il fatto che tu appena trovi la donna ti segue, il che è assolutamente fantascienza pura, cioè fa quello che seguimi in silenzio, cioè, zitta e vieni, assolutamente non esiste neanche a pagamento, adesso non vorrei entrare in altre logiche, ma è una cosa che non esiste. Ma poi era avveniristico anche come parità dei sessi, perché tu inizi il gioco, puoi anche scegliere di essere la ragazza e andare a salvare il tuo Romeo. Quindi, equal opportunity, esattamente. Okay. esatto. Invece l'altro gioco che avevo citato, Never Earth, è probabilmente il primo RTS della storia. Di solito viene indicato Dune 2 come, diciamo, punto di partenza del genere, o quantomeno come titolo più rilevante in assoluto, in realtà questo Nether Earth porta moltissimi elementi di novità. Ha anche esso la visuale isometrica, dobbiamo combattere contro robot avversari, e ci sono le solite cose che bisogna fare in questi giochi, quindi raccolta delle risorse, costruzione delle unità e un minimo di tattica. Chiaramente è un videogioco con tantissimi limiti, perché bisognava, soprattutto l'interfaccia, era difficile controllare tutto quello che bisognava tenere sotto osservazione, quindi c'era anche un'intelligenza artificiale, per quanto rudimentale, che prendeva il controllo dei nostri robot e li faceva combattere contro gli avversari, ma... era importante anche il fatto che tutte le unità erano personalizzabili, potevi scegliere di creare il tuo robot nella maniera più opportuna rispetto alla tua strategia, quindi poteva avere dei cigoli, poteva avere dei piedi, delle ruote, quindi era molto, c'era molta varietà nel gameplay, e questo era assolutamente inedito, non si era mai visto una cosa del genere. Tra i limiti è molto divertente anche notare la mappa, che non è una mappa classica quadrata, ma è praticamente una striscia isometrica e con qualche, insomma, limitazione chiaramente per il gameplay, ma penso fosse difficile fare qualche cosa di più, insomma, con le tante limitazioni di memoria. Anche questo è dell'87, anche questo è, diciamo, di una seconda generazione, una terza generazione di giochi, cioè tardivo, sì, ma sì, sì. No, lo stesso ben giocabile. Sì, ben giocabile, poi appunto ha anticipato di qualche anno e soprattutto di parecchia potenza di calcolo quello che avremo conosciuto più avanti, insomma. Fra l'altro, io credo che sia uno dei titoli che sfrutti molto bene lo ZX Spectrum, perché c'è stata una conversione per Commodore 64 poi di questo gioco che... è venuta molto molto male, insomma, quindi da qui si vede anche la vocazione dei computer. Probabilmente qui lo Spectrum faceva valere una potenza di calcolo maggiore rispetto al Commodore 64, non saprei sinceramente. Secondo me anche la definizione della grafica qui aiuta molto. In ogni caso io penso che sia diventata pure una cosa di cultura a un certo punto, perché ormai c'erano tanti giochi, sì. Sì, tanti giochi che avevano imposto questa visuale, quindi la gente si era anche un po' abituata, magari le prime volte. È un antirealismo, se vogliamo, perché comunque facilitava le cose e rendeva la cosa giocabile. Ci penso. Sì, infatti. Ma io l'ho conosciuto un paio di anni fa, quindi non se ne è parlato, non so perché non ha avuto molta visibilità questo gioco, anche in epoca di retro gaming. Se ne è parlato poco. In realtà sono, ripeto, un gioco uscito nel 87, o eri un rimbambito come me che tiravi fuori lo Spectrum anche dopo aver avuto l'Amiga 500 o l'Amiga 1000, oppure era difficile, anche perché il giro degli amici che avevano le cassette copiate eccetera eccetera cominciava ad andare scemando. Nell'87 mi ricordo che viaggiavano tanti floppy da 3,5 in casa mia, più ancora che le cassette. Sì, era passata alla generazione, esatto, successiva. Io però ogni tanto lo Spectrum lo tiravo fuori e andavo ancora a bazzicare nei negozi, nei posti dove si scambiavano cassette come se fosse droga. Anche se in realtà il registratore era ormai esaurito fisicamente, eh? Cioè io avevo un registratore doppia piastra, che era quello che usavo per per fare copie di backup dei programmi, e che ovviamente era stremato, stracotto. La grande peculiarità dello ZX Spectrum nella sua programmazione stava anche nel fatto che ogni comando rappresentava un byte, non rappresentava l'insieme di caratteri, e quindi era più facile riuscire a programmare diciamo con un basic più evoluto, e soprattutto riuscire a racchiudere magari maggiori contenuti all'interno di quello che poteva essere ovviamente un listato, anche se poi vabbè, con il discorso del linguaggio macchina il discorso è un po' diverso, però lo ZX Spectrum è stata una grande piattaforma anche e soprattutto per le avventure testuali, e di avventure testuali parliamo in questo ennesimo segmento, ovviamente passando dalla Terra di Mezzo al mondo di Sir Conan Doyle. Allora, non arrivano dall'Inghilterra, arrivano dall'Australia. Dall'Australia c'era questa Melbourne House, che poi è successivamente entrata nella galassia Infogram. E Melville House, io anche di questo ho un ricordo notevole, nel senso che The Hobbit è stata per molto tempo la killer app per Spectrum. Non è stata fatta la versione per 64 per un bel po' di tempo, è arrivata dopo, volutamente. Innanzitutto era la prima volta, almeno per me, che sentivo parlare dell'Hobbit di J.R.R. Tolkien. Al giorno d'oggi, con il Signore degli Anelli e tutta la fanfara di Jackson, devo dire che ormai ne hanno sentito parlare, credo, anche i tombini. Ma allora, nell'82, esattamente, infatti ero prontamente andato in libreria, poi mia mamma, che era appassionata di libri, figurati, ha detto: vai a leggerti il libro. Una palla mostruosa, avevo 15 anni e al settimo personaggio Svurgul della terra di Snarvald mi ero già rotto ampiamente i coglioni, lo confesso sentitamente, salvo poi ritornarci con gli anni. Esatto, dei grandi scrittori di solito dicevano che le parti più pallose, ma grandi scrittori veri hanno detto, le parti più pallose sono quelle descrittive, a meno che tu non ti chiami Joyce e allora ci metti 42 pagine per descrivere una tazza da tè. Allora, l'aspetto, adesso dico a Gianluca che, essendo nato nell'80, almeno questa parte fortunatamente per lui se l'è persa. Nell'81 è uscito Il nome della rosa. Io l'ho letto. L'ho letto anch'io, ecco. Però. Aspetta, però nell'80-81, quando è uscito, proprio i veri anni 80, dall'80 all'85, era in tutti i salotti sta cazzo di copia del nome della rosa. Io l'ho letta nell'86, nella versione paperback, nella versione con letture critiche a parte. Nell'86 ho fatto la maturità scientifica, ero fresco di latino, quell'estate me la sono letto e me la sono goduto. È stato un libro, è un libro meraviglioso, è un libro che Umberto Eco ha scritto dalla prima all'ultima riga, è un libro che ho goduto con la freschezza del latino di 19 anni, con la testa di 19 anni e con, senza il vincolo di doverlo leggere per la scuola perché interessava i miei eccetera eccetera, e me lo sono goduto. Forse è stato uno dei pochi atti di maturità, a parte l'esame di maturità, dei miei 19 anni. Anni prima va bene, però voglio dire, altri libri prima probabilmente non li avrei mai letti, ero giovane, pensavo ad altro, che cazzo ne so. Ma ti assicuro che mi dava più fastidio, successivamente mi ha dato fastidio il fatto che la gente dicesse, appunto, che l'Hobbit, come Il nome della rosa, ah, l'ho letto, sì, un capolavoro. Poi scoprivi che dopo la terza pagina non era andato un cazzo a nessuno. Per cui io faccio outing, l'Hobbit, la prima volta che è rimasto in casa mia a far polvere, lui e Gandalf. In tempi più recenti ho regalato alla mia fanciulla I figli di Húrin, che dovrebbe essere il prequel del Signore degli Anelli, di Hobbit, eccetera eccetera. Beh, la terza descrizione ti sei perso, ci sono più famiglie che parenti di minore età, non capisci più una me. Mamma mia, torniamo a noi. Sì, per carità. Allora, Melville House dalla ridente Australia nell'82 arriva con un videogioco che dal punto di vista grafico era una tragedia, nel senso che le schermate venivano disegnate nell'arco di qualche secondo. Quello che in realtà ancora oggi suscita, direi, ammirazione è il motore, il parser, il motore interno dell'avventura che laddove per avventure, per Apple II, per TRS-80, per Atari, come Zork, Rivali Ultima 4, 5, erano estremamente semplificate. In questo caso invece c'era una grammatica totalmente in inglese, molto di linguaggio naturale, cioè si potevano costruire delle frasi in cui dicevi prendi questo e fai quest'altro, e il parser di Hobbit e successivamente anche quello di Sherlock, cioè il motore interno, riusciva a interpretarle correttamente. Questo dava una qualità e uno spessore di gioco spaventoso rispetto agli altri giochi, cioè tutte le altre avventure risultavano essere veramente piatte. Get key, open door, fine. Cioè è la differenza che c'è tra sentire parlare Alec Guinness in inglese e sentire un nostro politico che dice the cat is on the table come rapporto. Oltre a questo, il gioco dell'Hobbit era complessissimo. Io mi ricordo che non ero riuscito ad andare molto avanti, è una cosa che ho rigiocato in tempi notevolmente successivi. Poi ovviamente non avendo la cassetta originale, non avendo l'istruzione di gioco, non avendo letto il libro, è evidente che ti perdevi, mentre invece per la cultura inglese, per i ragazzini inglesi, era già un libro molto più sì da nerd, ma anche da come dire, da di cultura generale, ecco. Gandalf probabilmente a metà degli anni 80 era già conosciuto, da noi probabilmente sembrava il nome di un detersivo. Ciò detto, è un gioco costruito molto molto bene dal punto di vista tecnico. Quello che sono riusciti a fare in quei benedetti 48k era fantastico, contando che veniva caricato praticamente una metà del gioco in una prima botta e c'erano centinaia di schermate. Le schermate venivano disegnate, diciamo, sostanzialmente a base di vettori, dopodiché venivano colorate al momento, non erano predisegnate, praticamente venivano disegnate al momento, ecco, sostanzialmente, esattamente. Ma dava, secondo me, anche una dimensione del gioco, nel senso che man mano si disvelava davanti al tuo occhio, tuoi occhi, la scena che stavi vedendo, perché ti veniva disegnata davanti pian pianino. E se fosse stata disegnata istantaneamente, così come era nelle versioni per cartridge che sono uscite fatalmente dopo, non avevano lo stesso appeal, a mio avviso. Quello che era molto bello però era l'interazione. L'interazione della tastiera era un comando vero. Personalmente a me è piaciuto molto di più Sherlock. Ecco, a me piace molto Sherlock Holmes e piace molto la Nasi. Non avevo un inglese, cioè sì, era relativamente buono, ma devo dire che l'inglese che veramente c'era in Sherlock, lì siamo ad altri livelli. Cioè ancora oggi secondo me Sherlock è un gioco che, perché tanti si fissano su Hobbit per come dire, lo scenario fantasy. Sherlock secondo me al giorno d'oggi è un Cluedo ad altissima tecnologia, nonostante i 48k. Cioè riuscire a fare uno Sherlock in una macchina con gli 8 giga di RAM come quella che ho in questo momento davanti al naso, credo che dovrebbe essere una roba di intelligenza artificiale tipo un Terminator, facendo le debite proporzioni. Non so, adesso me l'ho buttata lì, però l'idea era questa. Ditemi qualcosa. Ma era un gioco, appunto, solito di Sherlock Holmes, insomma, dove cercare il colpevole. Sì, nel... esattamente. Quindi, ma le partite cambiavano di volta in volta oppure era un'avventura lineare? Allora, sostanzialmente era abbastanza lineare. Sherlock era forse più interessante, perché Sherlock aggiungeva l'aspetto temporale. In Sherlock c'è comunque un tempo che scorre, si sta allontanando il treno, si sta allontanando la macchina dell'ispettore Lestrade, cioè c'è comunque una dimensione temporale che invece all'interno dell'Hobbit, vuoi per l'ambiente fantasy, vuoi per altro, non c'era. Secondo me Sherlock merita una giocata anche solo per vedere com'era organizzato, e poi comunque, cioè, in 48k c'è veramente un universo. Non riesci veramente a capire, anche solo a mettere a token le singole azioni, i singoli verbi, come diavolo abbiano fatto. Nota a margine: il linguaggio, il parser, si chiamava English, scritto con la I, di un'originalità micidiale. Fantasia al comando. E comunque sta di fatto che era il motore vero e proprio della Marlborough House, è stato il, come dire, l'asset più importante della Marlborough House per un sacco di giochi. Molto interessante. Io, come dicevo prima, sono abbastanza inesperto di queste cose, però ma se c'è poi questa struttura, la whodunit, come si dice, insomma, su da giallo in questa maniera, penso che sia anche abbastanza attuale. Magari è una tipologia di prodotto che invecchia anche meno, no? Sono queste storie poi appassionanti che ti possono comunque motivare a seguire il gioco. Ma ci sono anche tanti eventi ma poi credo che, siccome all'epoca avevano una dimensione commerciale questi giochi, forse comunque rispetto a quelle un po' più moderne, magari amatoriali, che si vedono in questi anni, forse comunque sono migliori queste qui degli anni 80, insomma, perché c'erano dei professionisti veri che mettevano il massimo che riuscivano a fare. Esatto. Comunque noi abbiamo, credo, esplorato varie tipologie. Adesso, riguardando i titoli, vedevo questo scenario. Se pensiamo a Jetpack è un linguaggio universale del gioco, è un casual games sostanzialmente, e sì, ripetitivo, ma facilmente giocabile da chiunque, anche senza istruzione alla tastiera. Dizzy, vabbè, a parte la cosa la stupidità del personaggio è abbastanza semplice. School Days comincia già a essere più complicato, perché comunque ha avuto necessità di una traduzione in italiano. Antatech è già più complicato, ma semplicemente come gioco, come strategia di gioco. Qui invece con Lobbit e con anche frenetico, sì, poi comunque richiede anche un certo impegno. Per quanto riguarda invece Sherlock e Hobbit, qui ovviamente questi giochi, per chi non sa l'inglese, cioè in italiano non sono stati tradotti, non sono così semplici, cioè è evidente che hanno avuto, leggevo che ha venduto 1 milione di copie, cioè potete immaginare che sono 1 milione di copie nell'82, tra parentesi era appena uscito lo Spectrum, quindi è uno di quei giochi per un gioco scritto, esattamente. Vuol dire che tutte le persone che veramente avevano letto Hobbit, che erano appassionati di Tolkien e che comunque volevano questo tipo di avventure, se lo sono comprati, punto e basta, non è che ci sono molte cose da dire, e ci hanno già giocato pesantemente. Questo per dire che siamo passati dal jetpack, che potevi fare una partita, spegnere il computer e andare a mangiare, mentre invece l'Hobbit il disastro era proprio il fatto di continuare a giocare e di avere da Your Computer o da altre riviste la mappa completa del gioco. Non era il fatto di risolvere il gioco in 7 minuti come trovi adesso su YouTube, ma era il fatto di esplorarlo tutto. La differenza era questa: ci sono anche delle avventure che non sono grazie a Dio ripetitive, per cui tutte le volte si propone uno scenario differente. Allora, dato che succede questo, e questi invece dall'Australia sono arrivati con un giochino che tecnologicamente era molto più avanzato. Ripeto, fatto salvo l'inglese, fateci un giro semplicemente per vedere che complessità avesse questo parser al giorno d'oggi. Un gioco di questo genere, secondo me, coinvolgerebbe, sarebbe un altro World of Warcraft o un altro non so che cosa su internet, riportato con tutta questo incasinamento. Ma poi quanto è suggestiva l'idea di entrare nel tuo libro che preferito, magari, che poteva esatto. essere lo Hobbit, e interagire, cioè magari in quell'albero, dietro quell'albero di cui ho letto nel libro, cosa poteva esserci nascosto, magari tramite il gioco io potevo chiaramente non più entrare nell'immaginazione di Tolkien, ma di quella dello scrittore tu del gioco. Allora, e, tu pensa allora. Sì, appunto, veramente animare un libro pensa sia una cosa, per quanto nella propria immaginazione, penso sia una cosa meravigliosa in qualsiasi tempo, quindi per questo dicevo che anche oggi uno probabilmente può godere di un'avventura testuale molto bene, insomma, se si concede di lasciarsi andare un pochettino, insomma. Ogni console, ogni computer avevano i loro capisaldi, avevano dei prodotti che venivano programmati specificamente per quelle macchine o venivano programmati su quelle macchine. Ma così come succede oggi, in realtà succedeva anche allora e in maniera un po' più complicata, perché comunque non c'era una standardizzazione anche dell'hardware così come c'è oggi, ma in realtà ogni macchina era veramente un'architettura a sé. C'era il problema delle conversioni. Anche se non tutti i giochi belli per Spectrum sono stati convertiti bene per computer come Commodore 64, faccio l'esempio di Match Day, che ad esempio nella sua conversione per Commodore 64 era un gioco orribile, tanto quanto invece era un bellissimo gioco su ZX Spectrum, ma comunque lo Spectrum è quello che ha sofferto probabilmente di più quelle che sono state proprio le conversioni, il porting praticamente tra un gioco da altre piattaforme alla piattaforma dello ZX Spectrum. E quindi in questo segmento parliamo di delle conversioni belle e brutte che siano per ZX Spectrum, ma comunque le più importanti. Ma sì, allora, siccome all'epoca era un tema molto importante quello della conversione, perché usciva, per dire, Bubble su, tutti andavano a vedere su quale computer rendeva meglio, no? E lo Spectrum, per limiti strutturali, era un po' svantaggiato nel ricevere adattamenti arcade. E ciò nonostante, ci sono stati gli ottimi esempi di conversioni. Non so se voi ne ricordate qualcuna, ad ogni modo quelle più famose sono sicuramente quella di R-Type, che aveva uno scrolling fluido. Immaginate uno sparatutto con uno scrolling fluido. su Commodore 64 poteva essere una cosa normale, per dire su computer più potenti come l'Atari ST questo non accadeva molto spesso. Sullo Spectrum hanno fatto un ottimissimo lavoro, un eccellente lavoro di adattamento, e, ma non solo su questo gioco, anche per dire altri ottimi esempi come Chase HQ o Chase HQ per gli italiani insomma, e, che era un gioco di corse in cui bisognava appunto rincorrere dei criminali, che su Spectrum ha una grafica assolutamente sbalorditiva, ma poi anche altri come per dire Rainbow Island, uno soprattutto come Flying Shark per dire, anch'esso molto fluido su Spectrum, sui 16 bit rendeva malissimo, era scattoso, era brutto da vedere, quindi appunto molto dipendeva dalla capacità con il codice da parte del programmatore. Citiamo anche un paio di esempi molto cattivi, come appunto la conversione di Street Fighter, che orripilante. Sì, orripilante, ma giustamente insomma. Ma peccato, perché poi a vedere gli sprite in fermo immagine sono anche molto riconoscibili e disegnati anche grandi, belli, ma in movimento chiaramente di Street Fighter non ha niente. E la programmazione su Spectrum è andata avanti parecchio poi negli anni, anche dopo la fine commerciale della macchina. Chiaramente le conversioni non erano un'arte molto nobile, perché appunto all'epoca i programmatori venivano spesso sottopagati, venivano ingaggiati però senza materiale a corredo, molti andavano in sala giochi con le monetine per vedere come erano fatti i livelli, non per modo di dire, vero. Sì, letteralmente, perché mentre in Giappone c'era un rapporto diretto, per dire, tra la Konami, la Capcom, con la gente che doveva convertire i giochi, in Europa c'era la US Gold che prendeva le licenze, esatto. E basta, diceva convertitelo, chi chiede meno lo fa. Infatti, tra quelli poi, orrendi c'era Beachhead, ad esempio, che era sulla sbarca in Normandia. E di R-Type abbiamo parlato anche di archeologia informatica, perché il programmatore, stavo riguardando adesso il post, si chiama Bob Pape, ha fatto un libro che è gratuito in cui lui racconta il porting di R-Type e di come l'ha scritto. Se volete, nelle note, se Simone vuole, viene messo, perché su archeologia informatica abbiamo parlato, io stesso me l'ho riletto quando l'aveva rilasciato e mi ero fatto due risate, perché scopri che è un ragazzino mandato allo sbaraglio dall'industria del software, peraltro ancora naif e primitiva, ma che comunque lo ha triturato e lo ha costretto a fare un porting che in realtà è venuto fuori un gioiellino. Sì, infatti. Io mi ricordo un Qbert orripilante per Spectrum. Abbiamo parlato di Color Clash, non possiamo non parlare ovviamente di Nirvana, anche se ne abbiamo già parlato in archeologia informatica, sia sul sito, ma soprattutto facendo anche un video per il canale YouTube di archeologia informatica, andatevelo a cercare, magari lo linkeremo anche nelle note dell'episodio. Nirvana è quel sistema, questo engine grafico che è stato realizzato di recente da uno sviluppatore brasiliano, che in realtà finalmente permette di realizzare giochi multicolor, sprite multicolor anche sullo ZX Spectrum, bypassando quello che è il problema del Color Clash che è stato citato anche prima. Citiamo soltanto Nirvana. Nirvana è una libreria che ha fatto questo brasiliano, se non ricordo male. È una libreria che permette di andare oltre Color Clash. Allora, 30 anni fa una cosa di questo genere credo che avrebbe ribaltato il mondo. Qualcosa tipo non c'è stato il crollo del muro di Berlino, qualcosa di questo genere. In realtà 30 anni dopo fa un po' ridere. Sarebbe stato meglio, non so. In realtà al giorno d'oggi fa quasi sorridere, ma neanche troppo. C'erano stati dei giochi in puntata con Carlo Sant'Agostino, abbiamo parlato anche di questa cosa, e anche lui ricordava che qualcuno aveva fatto degli esperimenti. Sta di fatto che comunque è una modalità che scambia molto velocemente questi benedetti pixel e che riesce a simulare colonne di colori da 8 colori, non righe ma colonne. Allora, che cosa succede? Succede che ci sono dei giochi, primo tra tutti il demo che è stato sviluppato da Erin Saukas, se non ricordo male, che è un demo, cioè su archeologia informatica abbiamo fatto il post, abbiamo fatto un video su YouTube, sia sull'emulatore, sia su uno Spectrum vero, commovente. Cioè, sì, ai tempi veramente... porca di una miseria averlo avuto, uno andava fuori a sbandierare lo Spectrum andante a 64, ovviamente avrebbe aiutato veramente tanto. Dato che appunto la cosa va avanti, tutti, direi che è una cosa fisiologica il fatto che i computer dopo la loro morte o comunque dopo il loro ciclo vitale tirino fuori il meglio di sé. È una notizia di pochi giorni fa che è uscito il primo gioco multicolor dello Spectrum, che si chiama El Stompo, che è un platform game. Lasceremo le note, il gioco, è una cosa che potete andare a cercare sinceramente immaginare un gioco di questo tipo per lo Spectrum al giorno d'oggi fa veramente ridere, perché comunque una cosa così avanzata, una cosa con dei colori così divertenti. È vero che è rallentato, perché voi dovete contare che lo Spectrum nello stesso tempo sta facendo finta di avere più colori e sta facendo giocare. Tutte e due le cose non le fa bene, ok? Ma comunque sto vedendo il video, è notevolissimo, nel senso è abbastanza veloce, sì. Comunque per... E tieni conto che è il primo gioco, poi probabilmente... Sì. C'è da dire una cosa, e questo però bazzicando un po' a Natale per la curiosità informatica mi sono dilettato col Boreal Basic, che è il compilatore del Sinclair Basic, facendolo girare su Mac. Poter sviluppare con una tastiera vera, con un emulatore in cui si carica istantaneamente il codice, lo si verifica e poi lo si butta giù. Addirittura io qui sul Mac ne avevo tre emulatori diversi, facevo le prove da uno all'altro, cioè è una facilitazione inaudita. Sì. Cioè una volta bisognava caricare il programma su uno Spectrum, caricarlo da un'altra parte cioè, era una roba micidiale, per cui penso che questo tipo di cose comunque, anche se non a livello commerciale ma a livello amatoriale, forse ancora più con più passione andranno avanti veramente tanto. Stay tuned, perché secondo me usciranno delle cose molto ma molto interessanti. Da quello che ho letto si sta sviluppando anche per il Commodore 64, Cogliamo l'occasione proprio di questa sezione dedicata a Nirvana per parlare anche del perché alcune questioni vengono risolte a distanza di 25 o 30 anni riguardo ovviamente i personal computer o le console di allora, semplicemente perché c'è tutta una schiera di appassionati che ancora continuano magari la loro analisi, il loro sviluppo delle questioni hardware delle varie macchine, cercando di bypassare quelli che sono stati i problemi, se non dal punto di vista tecnico, meccanico e hardware, da un punto di vista software. Ed è per questo che oggi ovviamente molte di queste macchine non hanno praticamente più segreti, perché sono state smembrate praticamente in ogni dove, anche semplicemente con l'emulazione, quindi la riproduzione in via software di quello che era il procedimento, il lavoro che faceva la macchina dal punto di vista hardware. Quindi cogliamo appunto l'occasione per lanciare anche questo intervento di Carlo Sant'Agostino, che ci parla del programmare su ZX Spectrum oggi, anche se poi in realtà il discorso può essere esteso. Chiaramente è un intervento estremamente stringato, e sul discorso della retroprogrammazione ci ritorneremo magari con una puntata speciale, invitando anche alcuni esponenti italiani di quello che è il mondo della retroprogrammazione oggi. Ciao a tutti e grazie per la domanda, Simone. Programmare lo Spectrum oggi, dunque, programmare lo Spectrum come programmare qualsiasi tipo di retrocomputer oggi è sicuramente un vezzo, è sicuramente solo per divertimento si può pensare di utilizzare ancora oggi un retrocomputer, un computer con più di 20 o 30 anni di vita. Non ci sono utilità o finalità pratiche didattiche, forse solo per quanto riguarda lo studio della storia dell'informatica, ecco, non didattiche per l'insegnamento, perché ci sono strumenti più adatti attualmente per l'insegnamento delle basi dell'informatica eventualmente, ma in ogni caso esiste questo fenomeno, esiste proprio per, come abbiamo detto, per un divertimento, un vezzo personale, esiste ed è molto diffuso. Se consideriamo proprio nel caso specifico dello Spectrum, dove abbiamo la fortuna che esista un sito a livello mondiale che è il World of Spectrum, il famoso WOS, che raccoglie tutta la produzione della specifica per Sinclair ZX Spectrum, si può vedere con una semplice analisi che dal 2000 ad arrivare ad oggi sono stati prodotti 1259 nuovi prodotti, programmi per lo ZX Spectrum. Praticamente, se facciamo una media, sono 89 all'anno, 7 al mese, più di uno alla settimana. Insomma, una quantità di software incredibile, se pensiamo a una macchina che esiste solo per nell'utilizzo per chi l'ha usata all'epoca e per chi se la ricorda. Quindi è una macchina, per quanto di grande successo dell'epoca, ma attualmente priva di un'utilità pratica attuale. E detto questo, parlando nel caso specifico dello Spectrum, visto che la puntata verte su questo, c'è anche un'altra motivazione forse che spinge oggi molti programmatori dell'epoca a rimettere mano o a continuare a sviluppare su questo piccolo personal, su questo home computer dell'epoca. Stiamo parlando del mercato home dell'epoca, se vogliamo, perché lo Spectrum, come altri, ha fatto parte delle famose guerre di religione, cioè quei fenomeni a cui abbiamo avuto modo già di accennare, differenti a seconda delle zone geografiche del mondo, perché stiamo parlando di quando il mondo negli anni 80-90 non era ancora globalizzato come lo è oggi, ma guerre di religione, quindi a livello geografico, nel caso specifico dell'Europa e dell'Italia, nel caso proprio particolare, dove i maggiori competitori, i maggiori player del mercato dell'home computer dell'epoca, si facevano la guerra. Nel caso italiano, Spectrum e Commodore 64, una rivalità che ancora oggi accende polemiche e flame quando viene accennata sui social o su internet. E quindi questa motivazione, oggi si può dire questo, possiamo dire, guardando la super partes, quindi in maniera assolutamente imparziale, lo Spectrum o chi aveva lo Spectrum ha sofferto di un certo complesso di inferiorità nei confronti del Commodore 64, per quanto lo Spectrum fosse piccolo, bello, maneggevole, con lo Z80 facile da programmare, con un BASIC bellissimo, tutte quelle cose positive che conosciamo, che abbiamo già avuto modo di elencare svariate volte. Quando ragazzini possessori dello Spectrum all'epoca di 14, 15 anni, si andava a casa dell'amico che aveva il Commodore 64, che sfoggiava un SID con voci polifoniche e grafica multicolor, scrolling parallattico a 60 frame al secondo, è ovvio che il povero possessore di Spectrum soffriva in silenzio e, tornando a casa, cercava di superare i limiti imposti della macchina. Diciamo che il superare i limiti imposti della macchina, questo è valido per tutti i retrocomputer, era, diciamo, uno sport diffuso, comunque un'attività che caratterizza questo periodo della storia dell'informatica, dove le macchine avevano dei limiti abbastanza significativi e per chi le programmava, tentare di superare questi limiti era una delle sfide principali. Nel caso specifico dello Spectrum, il fatto di superare i limiti imposti della macchina è sempre stato uno dei cruci principali, tanto che chi lo programma adesso in molti casi lo fa per tentare di superare, di stupire, di creare cose che non si sono mai viste prima. Tanto più che con gli anni si è acquisita sempre di più una conoscenza dell'hardware della macchina stessa, sia perché ci sono stati studi, per esempio creazione di cloni anche a livello italiano, ci sono stati diverse persone che si sono impegnate nel ricreare lo Spectrum, crearne dei cloni, ma poi c'è stato un libro importante uscito nel 2010 che di Chris Smith, l'analisi della ULA, come costruire un microcomputer. La ULA è il chip dello Spectrum, l'unico processore oltre allo Z80 che realizza tutto quello che è lo Spectrum, la grafica, qualunque cosa. E questo libro ha analizzato la ULA in maniera talmente approfondita da carpirne qualsiasi segreto. Non è un caso che poi nel 2011 siano usciti i primi motori multicolor, fino ad arrivare poi al famoso Nirvana, di cui non approfondisco ulteriormente perché abbiamo già fatto uno speciale su archeologia informatica. Se volete potete andare a guardarlo nel canale di archeologia informatica. È un motore che permette finalmente allo Spectrum di avere un multicolor che supera i limiti imposti del color, del famigerato color clash dello Spectrum, cioè la fantomatica limitazione di avere solo due colori ogni 8x8 pixel, ogni carattere dello schermo, ogni dimensione di carattere. Diciamo che siamo arrivati un po' alla conclusione di questo episodio, quindi ci sentiamo, sentiamo Stefano e Gianluca che magari esprimono la loro considerazione. Ci sentiamo fra pochissimo per i saluti finali e chiaramente i riferimenti della nostra trasmissione. Siamo da una macchina che era effettivamente ai minimi termini per certi aspetti e per altri aveva delle ingegnerizzazioni ancora molto più furbe di quanto si possa immaginare. I giochi sono ancora giocabili, gli emulatori sono lì, provateci, fatevi un giro. È una miniera di straordinarie sorprese, sicuramente. Ripeto, abbiamo citato soltanto pochi giochi, ce ne sarebbero tantissimi. Make Miner ha una storia bella anche dietro, la Gargoyle Games ha fatto dei giochi nei quali ci sono delle animazioni che magari possono sorprenderci per quanto erano fluide. Abbiamo tralasciato tante cose perché non era possibile trattare una libreria di 24.000 giochi, come abbiamo detto, però è un computer che meriterebbe tantissima attenzione anche oggi, anche per chi semplicemente è un curioso della storia dei videogiochi e nient'altro. Insomma, è un computer che penso abbia ricevuto tutto il successo che abbia meritato, tutto il successo che ha ottenuto, e non è un caso se ancora oggi ha delle comunità iperattive che si industriano per fare delle cose come Nirvana e giochi ancora perfettamente validi ancora oggi. E questa lunga e grande cavalcata all'interno del mondo dello ZX Spectrum era una puntata dovuta, una puntata voluta, una puntata che abbiamo amato, che abbiamo costruito con il massimo dell'attenzione, con la voglia di farla, soprattutto perché siamo entrati nel vivo, non che prima non fosse così, ma siamo entrati nel vivo anche delle nostre esperienze personali, di quello che ci ha toccato, quella parte di vita che abbiamo potuto camminare assieme a queste macchine, e quindi di esperienza diretta di quello che abbiamo veramente visto e di quello che abbiamo veramente vissuto e allo stesso tempo anche amato, perché purtroppo o per fortuna alla fine in qualche modo si possono amare anche queste macchine, si possono comunque tenere in una parte di se stessi comunque il ricordo piacevole che hai passato con queste macchine, da solo, con queste macchine anche insieme ai tuoi amici, giocandoci insieme, scambiandoti i giochi o addirittura entrando in competizione, come appunto è successo allo ZX Spectrum col Commodore 64, su quale fosse realmente la migliore macchina. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Insomma, poi aspettiamo chiaramente i vostri feedback, fateci sapere, e se volete anche che ci lanciarci anche degli spunti sul prossimo futuro, magari su argomenti che sono stati trascurati e che vorreste fossero successivamente affrontati. Detto questo, io vi saluto e non perdo ulteriormente tempo, visto e considerato che l'episodio è ancora una volta abbastanza lungo. www.archeologiavideoludica.it o.com o.blogspot.com. Archeologia Videoludica ci trovate come pagina sulla su Facebook e su Google Plus, Archeologia Videoludica @gmail è la nostra posta elettronica e @videoludica è il nostro Twitter. Cercate di interagire con noi quanto più possibile, perché come abbiamo detto da adesso in poi entriamo veramente nel vivo e prima di chiudere questa stagione, che sarà con il prossimo episodio, vi comunico insomma che sarà un episodio che farà un piccolo salto in avanti, ma farà una retrospettiva su una grande software house, ma in particolare su un gioco che forse non è tanto hardcore, forse non è tanto articolato e complesso o profondo come gameplay, ma sicuramente è stato un gioco che ha fatto la storia del mondo appunto dei videogiochi e di un computer in particolare. Alla prossima puntata. Oh, my God.